allora direi di iniziare. Intanto buonasera e benvenuti e grazie di essere qui. Io sono Alessio Callo. Io sono Guarancia Luisa, Marta Paoli. E siamo studenti in biotecnologia all'Università di Trento. Prima di iniziare vorrei fare una breve introduzione riguardo questa serata. L'evento che presenteremo si chiama Capiamo la Scienza ed è parte di una serie di eventi organizzati dal Movimento Culturale Italia Unita per la Scienza. Si tratta di un movimento attivo dal 2013 che raccoglie il sostegno e la partecipazione di volontari attivi su tutto il territorio nazionale. Tra gli obiettivi si pone quello di invitare la cittadinanza a sviluppare uno spirito critico nei confronti dei principali mezzi di informazione, con un occhio di riguardo alla corretta divulgazione scientifica. Stasera vi coinvolgeremo in un appassionante viaggio nel mondo della ricerca, spiegandovi cos'è e come funziona, e soprattutto lasciando spazio alle vostre domande. Infatti su ogni tavolo trovate dei foglietti e delle penne, e siete invitati a scrivere qualsiasi quesito e curiosità riguardanti i temi trattati. I post-it rappresentano una sorta di brainstorming, con delle parole che possono aiutarvi fungendo da spunto di riflessione. Luisa passerà tra i tavoli a raccogliere le vostre domande, ma comunque sentitevi liberi di intervenire. Desideriamo farvi sentire parte attiva della discussione e soddisfare ogni vostra curiosità. A rispondervi saranno i nostri preziosi invitati, il professor Luciano Conti e il dottor Andrea Lunardi. Iniziamo dunque con la loro presentazione. Il professor Luciano Conti ha ottenuto il PhD in biotecnologie cellulari e molecolari applicate al settore biomedico presso l'Università di Brescia. Successivamente è diventato borsista post-dottorato nel laboratorio guidato dalla professoressa Elena Cattaneo presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell'Università di Milano. Dal 2003 al 2004 ha lavorato presso l'Institute for Stem Cell Research dell'Università di Edimburgo. In seguito è tornato all'Università di Milano come assegnista e successivamente come ricercatore confermato in farmacologia. Dal 2013 al 2014 è stato ricercatore confermato presso l'Università di Trento, prima di essere nominato professore associato. Si occupa dello studio delle cellule staminali del cervello, con particolare attenzione ai segnali intracellulari coinvolti nella loro duplicazione e differenziamento e alle disfunzioni molecolari alla base delle malattie neurodegenerative e dei tumori cerebrali. Proseguiamo con il dottor Andrea Lunardi, che ha ottenuto il PhD in biotecnologie molecolari presso l'Università di Pisa. Successivamente si è spostato a Trieste nel laboratorio di oncologia molecolare. Nel 2009 è diventato borsista post-dottorato all'Harvard Medical School negli Stati Uniti. Dal 2014, forte di un grant da $1 milione, ha deciso di spostarsi a Trento per proseguire i suoi studi sul tumore alla prostata, ovvero le ricerche avviate già da alcuni anni al Cancer Research Institute di Boston. Il suo progetto mira a comprendere, in particolare, i meccanismi che causano la transizione da indolente a metastatico del tumore alla prostata e quelli responsabili dello sviluppo della resistenza a differenti tipi di terapia. Ora, prima di lasciare la parola ai relatori, vi leggerò un breve estratto liberamente interpretato dal libro Viaggi della Scienza di Piero Angela. Il metodo della scienza. Molto spesso, parlando di scienza e di ricerca, emerge una domanda apparentemente semplice e quasi ingenua, ma in realtà molto complessa. Che cos'è la scienza? La scienza, in un certo senso, si trova nella scomoda posizione del testimone. Deve riferire su fatti e osservazioni e deve riferirle nel modo più oggettivo possibile. Definire cos'è la scienza significa quindi, implicitamente, definire anche come si deve procedere per realizzare questo obiettivo. Cioè, qual è il modo da seguire per fornire delle testimonianze attendibili. È un antico problema attorno al quale si è dibattuto parecchio. Il fatto è che, malgrado le continue discussioni e controversie nel mondo della ricerca, esiste un metodo che viene internazionalmente onorato, esiste un linguaggio comune, esistono delle regole che tutti rispettano. E se qualcuno ha ragione e lo dimostra, tutti finiscono per accettare le sue idee, magari rinunciando alle proprie. È proprio grazie a questa metodologia che la ricerca scientifica ha potuto fare passi da gigante negli ultimi 2 o 3 secoli, e in particolare in quest'ultimo secolo. In passato, e ancora oggi, si è spesso tentato di definire cos'è in realtà la scienza. Diderot si rendeva conto delle difficoltà di questo tentativo. e nell'introduzione della sua celebre enciclopedia alla fine del Settecento affermava che non esiste una definizione che possa darne un'idea precisa ai non iniziati. Il premio Nobel per la biologia Peter Medawar ha cercato recentemente di aggirare l'ostacolo delle definizioni, proponendo per lo scienziato una definizione apparentemente ovvia, ma non troppo. Chi è lo scienziato? Chi si comporta come tale? E viene subito voglia di adottarla per le implicazioni che si intuiscono dietro questa semplice formuletta. Quali debbono dunque essere questi comportamenti? Una delle qualità che sembrano balzare evidenti dalla pratica quotidiana affinché lo scienziato possa svolgere bene il suo lavoro è il dubbio. Chi ha troppe certezze sulle proprie idee e sui propri risultati rischia di smarrirsi. Diversamente da quanto accade nelle ideologie e nelle religioni, il punto di partenza è rovesciato. Non ci sono verità assolute, ma piccole verità transitorie, utili solo per andare avanti e sostituirle al più presto con altre, che attendono di essere scoperte. Le cose acquisite, cioè, sono sempre da considerarsi provvisorie, o comunque da essere inserite in un sistema in movimento, sottoposto a frequenti cambiamenti. L'atteggiamento di continuo dubbio, di continua verifica e autocritica è un atteggiamento abbastanza anomalo nel comportamento umano. Quante volte avete sentito dire ad un politico, ad un uomo di fede, hai ragione, le mie idee erano sbagliate, la tua dimostrazione è convincente? Probabilmente mai. Questa sostanziale umiltà, questa disponibilità a cambiare idea, sembra contrastare non poco con la natura umana. L'uomo, infatti, tende sempre a ritenere le proprie idee fondamentalmente giuste. Non solo in politica o in economia, ma in tutti quei campi in cui il giudizio personale conta. Ed è molto difficile far cambiare parere ad un individuo. Inevitabilmente, questo aspetto della natura umana emerge talvolta anche nello scienziato. Per esempio, può capitare ad un ricercatore di incapricciarsi di un'ipotesi e di non accettare una risposta sperimentale che la contraddica. Però un tale atteggiamento può sciupare preziosi anni di lavoro e alla fine danneggiare gravemente la reputazione del ricercatore. La scienza, insomma, è un po' come lo sport. Per quanto si possa essere affezionati ai propri campioni e alla propria squadra, sono poi i risultati che contano. E se qualcun altro corre più veloce, salta più in alto o segna più punti, tutti devono finire per riconoscere il suo primato. L'unico problema è naturalmente quello di stabilire un controllo adeguato per verificare che questi risultati siano genuini e non il frutto di un errore. Nella scienza questo controllo si chiama metodo sperimentale. Tutto ciò ha dato origine ad una selezione naturale delle osservazioni e delle teorie e ha permesso un'evoluzione delle idee che ancora oggi continua. In altre parole, quando si afferma qualcosa, bisogna portare le pezze d'appoggio sperimentali, con i dati e la descrizione dell'esperimento, in modo che chiunque possa ripeterlo, verificarlo o criticarlo. E, analogamente, quando l'esperimento conferma la teoria che lo ha ispirato, gli altri debbono accettarlo oppure motivare in modo documentato la loro posizione. Questo era appunto un brano tratto dal libro Viaggi nella scienza di Piero Angela, e adesso lascerei la parola ai nostri relatori. Devo iniziare io allora. Buonasera a tutti. Questo penso debba essere più che altro un colloquio, visto anche il luogo informale, naturalmente spero che durante il mio discorso vengano fuori domande, si suscitano delle curiosità o che altro, e vi prego di far domande, interrompermi anche se ne sentite il bisogno, siete caldamente invitati a interrompermi, a fare domande, piuttosto che aspettare la fine, oppure tenere le domande per voi. Alla fine è meglio fare le domande piuttosto che tenersele dentro, se no non si hanno risposte. Allora, io sono stato invitato qui a parlare di metodo scientifico. In realtà ho visto che la definizione del metodo scientifico è già stata data in lungo e largo durante questa breve introduzione da un maestro come Piero Angela, che ha descritto benissimo cos'è il metodo scientifico, cos'è la scienza, la dinamicità della scienza, la mancanza di certezze perenni nella scienza. La scienza è un qualcosa in continuo divenire, non è una certezza eterna, ma ci sono continue scoperte, continui avanzamenti che possono cambiare completamente quella che è la nostra visione della realtà. La scienza si occupa essenzialmente di capire la natura, perché nell'animo umano è sempre, sin dall'antichità, l'osservazione di quello che c'è attorno a noi è stata la base per progredire, per migliorare se stessi e migliorare anche a livello sociale, tutti assieme. E se dobbiamo dare una definizione del metodo scientifico, possiamo dire che è un insieme di norme o comportamenti che aiutano il ricercatore a instaurare un percorso corretto che lo porta a capire gli eventi naturali, a darne delle definizioni e a condividerle con gli altri ricercatori e con la società in toto. Per cui immaginate un posto, una società dove l'uomo non si interroga sulle cose, non si interroga sulle cose perché ci sono già risposte per ogni aspetto della natura e ogni aspetto sociale e etico. Questi sono i cosiddetti dogmi, e una società dogmatica naturalmente è una società bloccata, perché il ricercatore non può partire dall'osservazione di quello che sta attorno a lui, ma parte dai dogmi, e praticamente quello che deve fare è trovare delle dimostrazioni che questi dogmi sono esatti. La Terra è piatta. Ok, bisogna trovare delle dimostrazioni che la Terra è piatta. Una delle dimostrazioni che nessuno ha mai dimostrato realmente, fino a quando non è stata superata e completamente abbattuta questa credenza, è che il mondo finisse alle colonne d'Ercole. Oltre il mondo non c'era niente. Se uno fosse rimasto chiuso ai dogmi, naturalmente saremmo ancora al 1400. Infatti il 1400, il 1500, il 1600 hanno rappresentato, diciamo, il periodo in cui è nato il vero e proprio metodo scientifico. Si è passati da un modo di analizzare quella che è la realtà, da un modo deduttivo, ossia partire da delle verità e trovare delle giustificazioni a queste verità, a un metodo scientifico vero e proprio di tipo induttivo. Dobbiamo ringraziare un personaggio pisano, quindi una città che tu conosci bene, che ha creato quello che è il metodo scientifico universalmente riconosciuto e condiviso da tutti. E questo personaggio, a volte magari non così universalmente riconosciuto, appieno rispetto ad altri personaggi, è Galileo Galilei. È un personaggio che ha veramente posto le basi del metodo scientifico, ha posto quelle che sono le norme per affrontare il processo della scienza e ha costituito un punto di rottura con quello che era l'universo scientifico precedente. Non so neanche se si può parlare di scienza prima di Galileo, io direi di no, perché appunto non era scienza come la contempliamo noi oggi, era semplicemente un cercare giustificazioni a dei dogmi, uno la Terra è piatta, l'altro il centro dell'universo la Terra, perché nella Terra c'è l'uomo è Dio, quindi tutto deve girare attorno a Dio, e quindi la Terra naturalmente è rotonda, la Terra è al centro dell'universo, l'universo è finito e via dicendo. Galileo Galilei ha, come sapete benissimo voi, grazie ai suoi studi, ha rappresentato un punto di rottura su questa visione tolemaica geocentrica dell'universo, grazie alle sue osservazioni. La cosa importante di Galileo Galilei è che ha iniziato a osservare con spirito critico l'universo. E diciamo che rispetto a chi c'era prima di lui l'ha potuto fare anche grazie anche al fatto che Galileo Galilei, oltre ad essere uno scienziato, era anche un tecnologo. Infatti penso che voi sappiate che Galileo Galilei ha scoperto il telescopio. Il telescopio ha aperto un nuovo modo di vedere la realtà. Quindi, giusto per darvi un'idea di come anche la tecnologia è importante nell'aprire nuove prospettive, nell'analisi della realtà, nel formulare nuove ipotesi, nel formare nuove teorie che possono essere validate universalmente. Il metodo scientifico di Galileo è il metodo scientifico cosiddetto sperimentale o induttivo. Non si parte più da un dogma, ma l'approccio è completamente rovesciato. Si parte dall'osservazione, si osserva quello che c'è intorno a noi, lo si osserva andando a cercare di spogliare l'osservazione da tutti gli elementi di disturbo. Quindi se io voglio osservare una cosa non mi devo perdere in mille rivoli, devo andare a guardare l'elemento importante. E basandosi sull'osservazione uno può formulare delle ipotesi che naturalmente restano tali fin quando non si passa allo step successivo. Lo step successivo è disegnare degli esperimenti. Il ricercatore è proprio un disegnatore di esperimenti di professione, diciamo, è una persona che guarda la realtà o aspetti della realtà e della natura e si focalizza su aspetti ben specifici cercando di capirli a fondo. E capire a fondo e analizzare delle cose significa formulare delle ipotesi e dopodiché prendere queste ipotesi e porle al vaglio proprio sperimentale per dimostrare o no, attraverso dei risultati ben specifici, che queste ipotesi siano corrette, siano sostenibili, ma non siano sostenibili perché uno dice che è così, ma semplicemente perché gli esperimenti sostengono quello che l'ipotesi dice. Una cosa importante da dire è che secondo questo metodo sperimentale ci possono essere mille più esperimenti che danno ragione all'ipotesi e quindi dall'ipotesi passare alla teoria vera e propria o alla legge, ma basta anche solo un esperimento che dice il contrario, che dimostra il contrario, e la tua ipotesi, nonostante sia corroborata da centinaia o migliaia di elementi a favore, può cadere, può essere modificata, deve andare incontro a una rielaborazione. Quindi questo per dirvi che la scienza e il lavoro del ricercatore è un qualcosa di dinamico, si fanno in continuazione esperimenti per capire meglio, per arrivare meglio a sostenere la propria ipotesi, per creare un modello di realtà che sia il più forte possibile e aderente naturalmente a quello che è la propria idea o la propria sensibilità o la propria visione dell'evento naturale. Naturalmente, sì? Tra l'altro, se non ricordo male, Galileo stesso ci ha, tra virgolette, sbattuto il naso, nel senso che sulla caduta dei gravi lui era partito dall'ipotesi che le velocità fossero proporzionali agli spazi. Poi sperimentalmente, pur non avendo gli strumenti matematici per lavorare, si è reso conto che l'ipotesi era da rivedere. E la rivista, sì. Esatto, la grandezza anche di uno scienziato nel rivedere le proprie posizioni, cambiarle e in un certo senso migliorarle. Questo è fondamentale nella scienza. Se uno rimane bloccato sulle proprie posizioni non va da nessuna parte. L'altra cosa importante nella scienza è arrivare a produrre dei risultati a sostegno di un'ipotesi e farla diventare teoria, se questi risultati vanno nell'ottica e sono a sostegno dell'ipotesi, ma poi bisogna andare oltre, bisogna prendere questi risultati, e la propria ipotesi e darla in pasto ai propri colleghi. Se non si fa questo, non si sta facendo scienza. Quindi la scienza pone delle basi di condivisione dei risultati, pone delle basi di diciamo mettersi in gioco ogni volta rispetto alla comunità scientifica, ai propri colleghi. Se non si fa questo, siamo ben lontani dal fare scienza. Dopo vorrei farvi degli esempi su alcuni modi di applicare il metodo scientifico in modo corretto oppure no, e così via. Un'altra cosa importante da dire è che la scienza procede naturalmente a gradini, non si arriverà mai a una vetta finale, bisognerà sempre procedere andando un passo sempre più in là. Quindi questo presuppone che la scienza non abbia un limite, non c'è un limite al sapere umano. Chi pensa di saper tutto in realtà non sa nulla, perché tutto è relativo al momento che si sta vivendo e le conoscenze attuali. Naturalmente tra 100 anni ci saranno altre conoscenze e la realtà potrà essere vista in un modo diverso. E durante la propria storia si è andati incontro alle cosiddette rivoluzioni scientifiche. La prima rivoluzione scientifica è stata quella di Galileo. La seconda rivoluzione scientifica è avvenuta durante il periodo dell'Illuminismo, in cui si pensava che tutte le risposte fossero immediatamente accessibili alla scienza e il pensiero fosse l'elemento guida di tutto e la natura poteva essere scomposta completamente e in poco tempo in ragionamenti e così via. In realtà questo, come sapete, non è vero. È sempre la progressione del pensiero umano ha portato durante i secoli successivi alla fisica quantistica, a principi di fisica che hanno fatto capire benissimo che quello che abbiamo noi è solo un punto di vista sulla realtà, è un punto di vista che possiamo avere grazie al fatto che si sono sviluppate delle capacità tecnologiche, però queste sono limitate. L'avanzamento tecnologico è importante per lo scienziato per poter vedere in modo diverso le cose, in modo più approfondito, e migliorare la propria posizione su quella che è la conoscenza della natura. Quindi il metodo scientifico pone come basi, diciamo, l'ipotesi, l'osservazione, l'arrivo alla formulazione di teorie che sono dinamiche, sono al vaglio degli altri scienziati, devono essere validate, possono essere sconfessate, e il grande scienziato è quello che riesce a capire quando sbaglia e riesce anche a andare avanti oltre. L'altro aspetto fondamentale del metodo scientifico è appunto la condivisione dei risultati, la riproducibilità dei risultati, perché se alcuni tipi di risultati si ottengono solo in un laboratorio, allora ci sono dei problemi. Gli altri laboratori, usando gli elementi che il ricercatore dà a disposizione, descrivendo la propria ricerca, gli altri laboratori devono essere in grado di riprodurre esattamente quello che abbiamo visto noi. Se non sono in grado di farlo, vuol dire che siamo di fronte a qualcosa che non è scienza, e questo capita spesso, più di quanto possiate immaginare. Volevo giusto farvi degli esempi su un modo diverso di approcciare la scienza e disegnare esperimenti che portano ad avere conclusioni più o meno vere, più o meno riproducibili da tutti, tramite visioni, esperimenti anche formulati diversamente da uno all'altro. Volevo iniziare con l'esempio del primo neurotrasmettitore scoperto dall'uomo, che è l'acetilcolina. L'acetilcolina è un neurotrasmettitore ed è una molecola segnale che viene prodotta dalle cellule nervose per stimolare o per comunicare con altre cellule. In particolar modo l'acetilcolina svolge tanti ruoli, ma uno dei ruoli, tra i ruoli importanti dell'acetilcolina, è quello che la produzione dell'acetilcolina dal nervo vago che innerva il cuore controlla l'attività del cuore stesso. Il primo scienziato che ha pensato che ci fosse questo segnale che veniva rilasciato da alcune cellule, comunicasse con altre e guidasse la loro attività, in questo caso contrattile per il cuore, è stato Otto Lewy nell'Ottocento. E lui ha formulato questa ipotesi che il nervo vago rilasciava un qualcosa che stimolava il cuore. Per dimostrarlo, quindi questa è l'ipotesi, per dimostrarlo cosa ha fatto? Ha fatto un esperimento secondo me molto bello. Se è un fattore che viene rilasciato, questo deve essere diffusibile all'interno di un sistema. E lui cosa ha fatto? Ha preso da una rana, ha preso il nervo vago connesso con un cuore e ha stimolato elettricamente il nervo vago, e la stimolazione elettrica del nervo vago faceva contrarre il cuore della rana. Cosa ha fatto? Ha preso un altro cuore di un'altra rana, questa volta il cuore è stato denervato, è stato tolto il nervo vago, l'ha messo nello stesso sistema, ha stimolato il nervo vago elettricamente, questo ha stimolato il cuore connesso, però ha rilasciato acetilcolina che questa nell'ambiente è andata a stimolare anche il cuore non connesso al nervo vago, e quindi stimolando un cuore si stimolava anche l'altro, e questo è stato il primo esperimento che ha dimostrato il fatto che le cellule nervose rilasciano un trasmettitore che comunica con le altre cellule. È un esperimento secondo me bellissimo, perché presuppone inventiva, creatività, naturalmente si parte dall'osservazione, però si arriva alla fine a dimostrare in modo abbastanza inconfutabile quella che era l'ipotesi iniziale. Quindi in questo caso si è partiti proprio da un'ipotesi, si è dimostrato il tutto tramite esperimenti e si è arrivati a una conclusione che tuttora regge, dopo due secoli ancora questa ipotesi regge. Un altro esempio di approccio sperimentale differente, forse un po' più associato al caso, è la scoperta della penicillina. Penso che tutti voi sappiate com'è stata scoperta la penicillina da Fleming. Com'è che ha scoperto la penicillina? Chi lo sa? Ci sono tanti biotecnologi qui, devono saperlo per forza. Dai, tu lo sai. Sì, lo so, della muffa sulla razza. Esatto. È caduto in una cultura. Qualsiasi altro avrebbe preso la cultura e dice: caspita, qualcosa è andata male, fa schifo, la butto via, devo rifare tutto da capo. Invece, da un evento casuale, perché si tratta di un evento casuale, il ricercatore cosa ha fatto? Ha ragionato, ha guardato l'evento e ha cercato di capirlo a fondo. Quindi quello che è stato fatto è: ok, sono morte le mie colture, ma perché sono morte? Perché la presenza di questo ha causato la morte delle mie colture? Non è che forse le muffe producono un qualcosa che distrugge le colture batteriche? Ok, va bene, osservazione, ipotesi, naturalmente è passato al vaglio dell'esperimento e ha dimostrato che ciò era vero, e naturalmente dobbiamo, grazie all'osservazione casuale, si parla di serendipity in questo caso, o botta di... però tante altre persone penso abbiano fatto questa osservazione, ma non hanno ragionato sul perché delle cose. Quindi diciamo che lo scienziato vero si sorprende di ogni cosa che vede. Se un esperimento va male, non è che dice: caspita, l'esperimento è andato male, non vedo quello che mi attendo, allora butto via e rifaccio. Cosa fa? Prende, riparte da capo, considerando quell'osservazione come un'osservazione importante e cercando di capire al meglio il tutto. Tutto questo porta ad avanzamenti importanti per la scienza. Un altro esempio che volevo farvi è più vicino al campo di indagine del sottoscritto, ed è il campo delle cellule staminali, ed è un esempio abbastanza recente. Fino a poco meno di 10 anni fa si pensava che una cellula differenziata, una cellula della pelle, una cellula nervosa, una cellula del sangue, che ha sviluppato delle funzioni, ha maturato delle funzioni e quindi serve per alcune cose e non per altre, non serve più per altre cose, una cellula di questo genere non poteva essere riportata ad uno stadio, per così dire, di cellula bambina, ossia di cellula staminale, in grado di poter fare più cose. Quindi una cellula staminale, ma in particolar modo le staminali pluripotenti, sono in grado di decidere cosa diventare. Possono diventare cuore, possono diventare cervello, osso, sangue, tutte le tipologie di cellule del nostro organismo. Una cellula della pelle è una cellula della pelle e resterà tale normalmente. Si pensava che, questa era un'assunzione vera e propria, che non si potesse riportare indietro a uno stadio primitivo bambino una cellula ormai matura funzionalmente. In realtà Shinya Yamanaka nel 2006 ha pubblicato un lavoro che ha dimostrato che questo in realtà è un dogma che non esiste più. Dopo 9 anni sappiamo che quello è un dogma vecchio. La scienza adesso ha fatto progressi molto rilevanti in quest'ambito e tutto questo grazie alla scoperta di Yamanaka. Yamanaka è partito da un presupposto, da un'osservazione di alcune molecole presenti nelle cellule staminali che non sono più presenti nelle cellule differenziate e si è posto una domanda: cosa succede se io metto queste molecole tipiche delle cellule staminali in una cellula differenziata? Lui l'ha fatto ebbene è riuscito a riportare indietro una cellula della pelle. Da una cellula della pelle si è ritornati a una cellula staminale e questa cellula staminale derivata dalla pelle è in grado di produrre tutti i tipi di cellule del nostro organismo. E questa è stata una vera e propria rivoluzione nel campo. Però la cosa importante è che all'inizio nessuno credeva a Yamanaka. Lui aveva fatto delle application per dei grant e tutti dicevano: guarda, è impossibile quello che proponi, è troppo ambizioso, non hai gli strumenti per farlo. Lui l'ha fatto, ha realizzato, ha avuto ragione, e questo è giusto l'esempio di una persona, di uno scienziato che parte da presupposti, da osservazioni e tramite la testardaggine cerca di realizzare quello che pensa. Adesso centinaia di laboratori in giro per il mondo applicano il metodo di Yamanaka e questo ha aperto veramente a tantissime altre possibilità in campo di ricerca, ma anche in prospettiva di applicazioni biomediche per questo tipo di cellule, cose che prima non erano possibili e immaginabili. L'ultimo esempio è un esempio italiano. Ci sono tanti esempi belli dell'Italia, però vorrei finire con un esempio emblematico, un po' negativo, che è il metodo Stamina. È un qualcosa che è ancora, diciamo, una ferita che ancora brucia a livello sociale, a livello scientifico. Ormai si sa che il metodo Stamina era una truffa, c'è stato un procedimento giuridico, si è giunti a delle condanne, la persona che aveva proposto questo metodo è stata condannata perché ciò che proponeva era niente, era una truffa per lo Stato e per i pazienti. Però tuttora, nonostante sia stato dimostrato che il metodo Stamina è qualcosa di inesistente a livello scientifico, biomedico, è stato dimostrato in lungo e largo, nonostante le mille difficoltà politiche che sono state incontrate per poterlo fare proprio a fondo, però ci sono ancora malati che sono in presidio di fronte al Parlamento sotto delle tende perché protestano che vogliono sottoporsi al metodo stamina. Metodo stamina, non so se lo sapete, presupponeva che è stato formulato da Vannoni. Voi direte: Vannoni è un grande scienziato, un ricercatore in ambito biomedico. No, Vannoni è uno psicologo. È uno psicologo che di scienza non sa nulla. Magari sarà bravo nella scienza della comunicazione, anzi è molto bravo nella scienza della comunicazione, però la scienza biomedica e la ricerca scientifica è qualcosa di diverso dalla scienza della comunicazione. E lui partiva dal presupposto che si possono curare malattie di ogni tipo semplicemente prelevando dal midollo osseo dei pazienti alcune cellule, che lui definiva staminali, e infondendole nei pazienti stessi. Questo è il metodo stamina. Tramite questo metodo, cellule dal midollo osseo prelevate e impiantate in malati di Parkinson. Parkinson, i neuroni che muoiono, lo sapete. Le cellule del midollo osseo i neuroni non li fanno. Nessuno ha mai dimostrato che il midollo osseo produce neuroni normalmente. E, oppure in malattie cardiache, però anche lì il midollo osseo non produce cellule del cuore. Comunque lui, sfruttando ambiti non scientifici, sfruttando conoscenze scientifiche inesistenti e risultati inesistenti e falsificati, ha creato questo metodo stamina, ha creato un sistema tale per cui tante persone, basate sul nulla, che in pratica si parla di pseudoscienza, perché ciò che propone Vannoni non è un qualcosa di dimostrato che tutti i laboratori possono riprodurre, è un qualcosa che è al vaglio scientifico di tutti, anzi lui non voleva neanche dire cosa faceva le cellule che prelevava. È stato scoperto che non faceva nulla a queste cellule, anzi dava una marea di acido retinoico, che è un composto che uccideva le cellule che prelevava, per cui non iniettava niente. E tramite questo processo, che col metodo scientifico non ha nulla, ha creato aspettative nelle persone, tale per cui adesso una parte della scienza, della società, pensa che i ricercatori siano una comunità crudele che non vuole applicare le proprie conoscenze per migliorare le condizioni dei malati, che è esattamente l'opposto. Gli scienziati vogliono condividere con gli altri. Chi non vuole condividere, non vuole dire cosa fa, perché lo fa e con quale finalità lo fa, non è uno scienziato, e ciò che propone non è di utilità per nessuno, tanto meno per i malati. Per cui diffidate da chi procede in modo non scientifico, perché procedere in modo scientifico, seguire il metodo scientifico, significa avere un modo rigoroso di affrontare le cose, un modo rigoroso di metterle al vaglio di tutti, di far sì che questo possa servire a tutti, non semplicemente a fare una truffa e a guadagnarci a livello personale e basta. Per cui metodo scientifico è importante nella ricerca per gli scienziati, ma è un metodo che ognuno di noi deve applicare nella realtà di ogni giorno, nell'affrontare le cose, nel non fermarsi ad ascoltare, ma andare un pochino oltre e a capire quello che uno vuole dire e a capire se quello che sta dicendo è corroborato da fatti reali, contingenti, o semplicemente sono parole al vento che dopo poco tempo spariranno, non lasceranno traccia. Quindi metodo scientifico per me è questo, e spero di avervi trasmesso un pochino di questa mia visione sulla scienza e sul metodo scientifico. Ok, direi che ho finito. Vado avanti io. Va bene, allora, lasciatemi innanzitutto ringraziare i padroni di casa che ci stanno ospitando, quindi un grazie a loro per questo posto. Io l'ho scoperto ora, sono arrivato relativamente da poco, ma ritornerò di sicuro. Vorrei ringraziare i ragazzi che hanno organizzato questo evento, che secondo me è estremamente importante, a cui ho aderito immediatamente, ma soprattutto vorrei ringraziare voi che siete qua. Devo dire che è stata un po', anzi, è stata una grossa sorpresa. L'idea sì, che mi ero fatta era di avere davanti una platea di settantenni, non so come mai, ma mi ero prefissato una cosa di questo tipo. Associ il tè all'età geriatrica. Un po' di congetture, e invece mi fa veramente un piacere immenso vedere questa platea di giovani che saranno poi ovviamente la classe dirigente domani e che sono qui a discutere di queste cose, quindi grazie della vostra presenza. Io sarò meno professionale di Luciano, andrò diretto a toccare tutta una serie di pochi punti, diciamo, non tantissimi. Innanzitutto vorrei sapere chi di voi ha un bagaglio scientifico come background, chi sta facendo la laurea in scienze biologiche o altre discipline che comunque cadono nell'ambito scientifico del life science, della... Te? Sì. Poi, a parte... Sì, vabbè, ok. Loro li conosco. Sì, anche... No, voi... Sono infiltrati. Va bene, allora... Cosa, giusto per curiosità mia, niente di che. Allora, il mio compito stasera sarà quello di portarvi un attimo a ragionare su quello che forse è la ricerca di base. Io sinceramente non posso dire di avere 100 anni di esperienza, ma insomma è un po' di anni che lavoro nel campo. Non capisco che differenza ci sia sinceramente tra ricerca di base, ricerca traslazionale, ricerca applicata, ricerca appunto, ok? Questa è la mia idea. Diversi tipi di ricerca, ma alla fine è sempre ricerca, e ve lo dimostro. Allora, quanti di voi si sono chiesti come siamo arrivati ad avere la levodopa per il Parkinson, l'insulina per alcune forme di diabete, determinati tipi di chemioterapia per il cancro? Cioè, vi siete mai chiesti com'è che persone sfortunate, ovviamente, ma guardate che la percentuale è immensa, cioè non si scappa, o si casca in neural disorder o si casca in cancro. I più fortunati, cardiovascolare, infatti arrivavo, i più fortunati muoiono in infarto, ma non c'è modo al momento, quindi, e mi immagino che i miei stanno, io vengo da Piombino originariamente, quindi in provincia di Livorno, vero che c'è una centrale siderurgica gigantesca e quindi specialmente per tumori causa ovviamente un'incidenza, ma nella mia palazzina siamo in 6, ok, ci conosciamo da 40 anni, c'è una persona morta di sarcoma di Ewing, mio padre con 2 tumori al colon, una persona morta di melanoma e un altro morto di un tumore al polmone, 4 famiglie su 6. Quindi capite che si sta parlando di cose che sono nella realtà di tutti noi, in un modo o nell'altro toccano tutti. Quindi, vi ripeto la domanda, vi siete mai chiesti come la levodopa è arrivata in clinica? Come l'insulina è arrivata in clinica? Guardate, queste sono cose che cambiano la vita dei pazienti, ok? E alcune forme di terapia curano i pazienti. Per cura si intende una cosa molto precisa, si intende che il paziente viene sottoposto ad una terapia e la terapia risolve il problema e il paziente esce dalla terapia e si dimentica quello che aveva avuto. Queste cose succedono di rado, ok? Cioè non siamo ancora in grado veramente di curare quanto vorremmo, ma ci sono tutta una serie di farmaci che comunque allungano in modo veramente consistente la vita del paziente, migliorano in modo molto consistente la qualità della vita del paziente. Io, mio suocero con Parkinson, non era in grado di sbucciarsi una mela da quanto tremava, non era in grado di bere un bicchiere d'acqua da quanto tremava. Nel momento in cui si è convinto a fare una visita a Milano e gli hanno prescritto la levodopa, si risbuccia la mela, si beve il bicchiere d'acqua e a 80 anni risale a 15 metri per potare le piante che entrano a casa. Quindi insomma, non è curato, il Parkinson è sempre lì, ma insomma la qualità della vita sicuramente ha fatto un bel salto in avanti. Ah, ve lo dico io, come arrivano queste medicine? Questi sono farmaci intelligenti. Cosa si intende? Che al contrario della penicillina, che grazie a chi ha fatto quel giorno cascare l'arancia, ma quella è stata un'evidenza sperimentale che c'era qualcosa che funzionava, e lo era. Ma come funzionava? Non lo sapeva mica. Oggi quello che facciamo quotidianamente è quello. I farmaci sono diventati tutti farmaci intelligenti, cioè dobbiamo capire cosa è che non funziona nella patologia, quale meccanismo, quale gene, quale enzima, e poi una volta identificato capire cosa fa quella proteina, quell'RNA, quella molecola in un contesto cellulare, all'interno di un tessuto, in un determinato momento della vita, che sono tutti fattori che cambiano le carte in tavola. E una volta capito cosa fa, cercare di modularlo. Quindi se è troppo attivo, di trovare il modo di rilassarlo, se è poco funzionale, di dargli spinta, e così via. Quindi il concetto di fondo è che praticamente ormai il 95% dei farmaci che abbiamo in casa sono tutti farmaci intelligenti. Quindi per ciascuno di questi è stato caratterizzato il meccanismo che questo farmaco, che questa molecola va a toccare. Ora, a parte poche malattie, chiamiamole malattie in modo generico, che sono attribuibili a infezioni o a virus, qualche forma di cancro, specialmente per le donne in utero, queste cose qua dipendono da un microorganismo, cioè è qualcosa di esogeno al nostro corpo, di diverso. E come diverso, facilmente targettabile, direi, facilmente colpibile da farmaci intelligenti. Una volta che si è scoperto chi è il problema e cosa soffre, beh, l'HIV è un esempio. I pazienti non sono più guariti, non sono curati, ma il problema è praticamente quasi risolto. Va bene? Ma combattere contro cose di questo tipo è, non voglio dire più facile, ok? Perché comporta sempre un bel effort, un bel impegno, ma insomma, il problema di tutte le altre patologie di cui vi ho parlato prima, che sono il 95-98% dei casi, è che essere deregolati sono meccanismi che funzionano normalmente in tutte le altre cellule del nostro corpo, praticamente, o in una buona parte. È semplicemente una deregolazione che crea il problema. Quindi a quel punto il farmaco, per quanto intelligente, perché va su quel meccanismo o intorno a quel meccanismo, va a toccare il solito meccanismo anche nelle cellule sane. Perché la chemioterapia è tossica? Perché la radioterapia è tossica? Per quanto ora, specialmente le forme di radioterapia focalizzate, ovviamente riducono la tossicità dei raggi perché è un po' più centrato il problema. Ma faccio un altro esempio che purtroppo ho iniziato a indagare di recente. Sarcomi di Ewing o sarcomi sono tumori in genere giovanili, specialmente il sarcoma di Ewing fa il picco massimo intorno ai 10-15 anni. Bene. Questa era una cosa che volevo fare, ho un bagaglio su tumore alla prostata fatto a Boston, ma l'idea mia era di continuare a lavorare su quello, ma di spostarmi anche, di aprire un filone nuovo su tumori più pediatrici giovanili. Allora, il tumore, il sarcoma di Ewing, che è un sarcoma osseo, quindi il tumore avviene all'interno dell'osso, è curabile intorno al 75% dei casi. Che uno direbbe, wow. Questo è dal 1960, prima del 1960, torna al 1960, prima era letale, 100%. Intorno al 60 c'è l'application della radioterapia, che fa crollare la mortalità di questo tumore in bambini del 75%. La radioterapia funziona perché sappiamo cosa fa, perché danneggia il DNA in senso lato, ma lo denuncia tanto più quanto più questo DNA è aperto, è a disposizione. E questo DNA è tanto più aperto, è tanto più a disposizione, tanto più le cellule si duplicano, che è un aspetto tipico delle fasi iniziali del tumore. Quindi leggevo e dicevo, wow, fantastico vedere i grafici di questo sarcoma, che letalità 100% fino al 1960-70 e poi brum, un crollo vertiginoso, è qualcosa che per chi fa questo lavoro dice funziona, ogni tanto le cose funzionano bene. Poi vado avanti nelle mie letture, ricerca, e ovviamente c'è quello che in inglese si chiamerebbe drawback, la fregatura, che siccome stai facendo irradiazione a un organismo, a dei tessuti in fase esponenziale di crescita, come sono i tessuti, gli organi di un ragazzo di 10 anni, 15 anni, questo 75% dei pazienti a cui il tumore primario, sarcoma di Ewing, è stato curato dalla terapia, sviluppano tumori secondari in tarda età. In tarda età intendo i 30-40 anni. Perché? Perché la radioterapia che ha ucciso le cellule del tumore ha fatto danni, ovviamente, in cellule che stanno intorno al tumore, che erano cellule normali. Quindi questo per dirvi, ovviamente intanto salviamo quel 75% di bambini che altrimenti morirebbero, punto. Ma dobbiamo comunque, non di Ale, ora pensa ad altro, perché c'è da andare oltre, da trovare qualcosa di meglio, e che non posso salvare la vita a un bambino di 15 anni e sapere di fargli venire un tumore 15 anni dopo, bene? Di nuovo, questo è un esempio per dirvi semplicemente che la lotta a queste patologie è estremamente complessa, perché i meccanismi deregolati sono meccanismi che sono normalmente funzionanti in altre cellule, e che questi farmaci intelligenti, per quanti vadano a toccare il meccanismo che è deregolato, la via che è deregolata, la toccano nelle cellule tumorali e la toccano in altri distretti. Perché? Chemioterapia è sistemica, quindi va via endovena, e quello su cui mezzo mondo sta lavorando è il delivery, cioè riuscire a portare il farmaco intelligente sulla cellula giusta, cioè sulla cellula tumorale. Ma questo è una cosa al momento impossibile, cioè non ci stiamo riuscendo. Perché? Perché sono cellule normali, cioè stiamo lottando contro noi stessi, va bene? Al battesimo della mia bambina, un anno fa, in Toscana, una chiesina sparsa nelle campagne della Toscana, bellissimo, il parroco mi chiede cosa faccio, cosa non faccio, mi conosceva, gli spiego, lavori sul tumore ad Harvard, wow, in un ospedale, quindi per i pazienti, deve essere difficile. Faccio io, sì, deve essere difficile probabilmente anche per te, perché mi immagino che tu abbia famiglie a cui devi un attimo tirar su il morale. E lui mi dice, sì, di queste cose si parla praticamente due volte a settimana in chiesa durante i sermoni, e io ovviamente dico che il tumore è una cosa cattiva, pregevole. E gli ho detto, guarda, sì, in una visione generale, ma da un punto di vista biologico quello che stai dicendo è totalmente sbagliato. Leggermente confuso, gli faccio, vabbè, guarda, ti faccio un esempio, era periodo di grano, e gli dico, che ne pensi dei papaveri? Papaveri, l'avete visto? Cioè, trovi papaveri nel grano, sempre, ma il numero è relativamente basso, per fortuna. Ah, papaveri di grano, bellissimo, ecco, gli ho detto, bellissimo. Fai conto che quei papaveri diventino invece dell'1% delle piante nel campo di grano, il 90% delle piante nel campo di grano. Il raccolto è scassato perché non raccatti più grano, ma poi dici una cosa orrenda, vedi un campo di papaveri? No. Questo è quello che succede. Cioè il tumore è un'esplosione di vita. Da un punto di vista biologico, queste cellule vogliono vivere in tutti i modi, vogliono duplicarsi, crescere, riuscire a campare in distretti, in tessuti che non gli competono, dove in teoria non dovrebbero riuscire a vivere, perché ogni tessuto è fatto in modo abbastanza diverso da quello accanto. Quindi se stai in Africa come cellula e vai in Italia, non funziona in condizioni normali. Queste cellule tumorali riescono a campare da ogni parte, a sopravvivere a trattamenti. Quindi stiamo lottando contro qualcosa che vuole vivere in tutti i modi, mettendo ogni asso nelle proprie mani che sul tavolo. Quindi il concetto di fondo è: dobbiamo trovare i meccanismi che sono deregolati in queste patologie, e questi meccanismi sono meccanismi che funzionano normalmente in altre cellule, ma bisogna targettarli, modificarli. Perché la ricerca di base mi viene in aiuto? Perché, come vi ho detto, sono meccanismi normali, sono meccanismi semplicemente deregolati. Quindi qualcosa che nel momento in cui deregolato mi può far venire un tumore al seno, quel qualcosa, come funziona quel meccanismo, come funzionano le proteine coinvolte, i geni coinvolti in quella via, mi può venire descritto nello sviluppo della retina di un rospo. Perché i meccanismi alla fine sono veramente simili e conservati. Quindi quello che ad oggi si disprezza un po' e su cui si taglia i fondi, come al solito, è questa ricerca di base, no? Perché dici, mamma, che me ne frega di sapere come si sviluppa la retina di un rospo? Io c'ho da pensare a pazienti, c'ho da curare pazienti. No. Questo è un concetto veramente fuori luogo. Ma i meccanismi sono soliti. A me, che studio cancro alla prostata, sarcomi, e poi ho fatto tiroide, ho fatto colicisti, nel momento in cui io individuo un meccanismo che è deregolato e che mi dà origine a tumore a colicisti, nel senso che so qual è la proteina che sta facendo casino, se io leggo, apro PubMed, che è questo motore di ricerca dove sono collezionati gli articoli scientifici, e comincio a fare delle domande al motore di ricerca e dico, ma cosa si sa già di questa proteina? Cosa si sa già di questa via di segnale? E mi trovo un bel lavoro pubblicato seriamente, con metodo. Questa è la differenza. Cioè i lavori devono essere pubblicati con un metodo scientifico, altrimenti... Ma se trovo un bel lavoro pubblicato con metodo che mi descrive il ruolo di questa proteina nello sviluppo della retina in rospo, ma io non dico, ma chi se ne frega della retina in rospo? Io apro quel lavoro, me lo leggo, me lo rileggo e me lo studio per 10 giorni, perché quel meccanismo io lo prendo, quello che mi hanno detto i colleghi che hanno studiato quella proteina nella retina in rospo, io lo prendo e lo sfrutto per andare avanti nella mia di ricerca. Questa è la ricerca di base. Non c'è una ricerca di base e una ricerca traslazionale o medica o chiamatela come vi pare, c'è ricerca, ok? Quindi questo è il futuro, nessuna distinzione, ricerca e ricerca. La retina di rospo può essere importante per sapere come si sviluppa una retina, ma l'informazione che c'è lì mi può tornare ultra comoda per curare, speriamo in un futuro, pazienti con tumore al colon. Questo è il concetto, così come un concetto di base ormai spingersi da un punto di vista di ricerca e di applicazioni cliniche a farmaci sempre più intelligenti, quindi non più chemioterapici che bloccano semplicemente il sistema di duplicazione cellulare, che per l'amor del cielo è un aspetto che caratterizza abbastanza il tumore, ma se pensate a tessuti epiteliali come l'intestino, che ha un turnover di duplicazione cellule perché l'esfoliazione dovuta al passaggio delle feci è mostruoso, perdiamo una quantità di cellule ogni mattina che nemmeno pensate. Quindi voglio dire, farmaci che sono comunque indirizzati a fare qualcosa di preciso, quindi no, boh, chissà cosa fanno, ma comunque molto generici nello spettro, questi verranno sempre più abbandonati per farmaci sempre più mirati a meccanismi precisi. Bene, questa famosa target therapy funzionerà, sta già funzionando in alcuni clinical trial. Di nuovo, un aspetto su cui dobbiamo insistere, dobbiamo migliorare, sicuramente il delivery. Perché nel momento in cui io riesco a caratterizzare una piccola sfumatura che mi identifica la cellula tumorale, la cellula malata, e portare lì il farmaco intelligente, beh, a quel punto le cose cambieranno, cambieranno per parecchi tipi di tumori, sicuramente. Quindi il sostegno alla ricerca è unico, non c'è, continua a stressare questo concetto, ogni volta che sentite di la ricerca di base, ma per amor di Dio, ma di cosa sto parlando? Bene, ricerca, ricerca, il concetto è ci credete o non ci credete, basta, se ci credete dovete supportarla da chi fa retina, a chi studia la mosca, a chi studia i pazienti, perché tutto porta con voglia nella solita direzione. E il supporto non è soltanto, per quanto fondamentale, non è soltanto supporto economico, ovviamente, è tanto sempre lì si va. La ricerca costa veramente un occhio della testa, e non parlo degli stipendi di chi la fa la ricerca, perché vi garantisco che non è quello che costa. Costa perché, come diceva Luciano, la tecnologia è fondamentale ed è super tecnologia. Si parla di cose micrometriche, di particelle nanometriche, di ottiche, di sistemi di analisi sempre più complessi, perché il sistema è complesso, quindi costa in quel modo. E l'altro aspetto però, che è il supporto quello vero, è questo, che in Italia, vi garantisco, è al momento sotto il tappeto. Se io ho deciso di rientrare, perché con $1 milioni potevo rientrare dove mi pareva, vi garantisco, cioè mi avrebbero aperto le porte dappertutto, specialmente in questo momento dove soldi non ce n'è, tutti mi hanno detto uno dei motivi per cui ho deciso di rientrare a Trento è perché comunque parlando con tutta una serie di persone che già conoscevo, tutti mi hanno detto che Trento e il Trentino è una regione che tiene a essere presente, okay? Tiene a farsi vedere, tiene a essere informata, e infatti vi dico che nei 2 mesi che sono rientrato ho avuto più giornalisti che scienziati nell'ufficio, ma questa è una cosa che mi ha fatto estremamente piacere, perché è fondamentale per chi fa scienza sapere che ci sono delle persone che credono che il lavoro che stai facendo possa essere un lavoro importante, okay? Questa è una cosa che negli Stati Uniti è scritta anche sui muri. Nel momento in cui entri all'aeroporto, okay, l'ufficiale della dogana lì, dell'immigration, ovviamente è della gente con una ghigna che ti potresti spaccare i mattoni, una cattiveria, trasuda una cattiveria sul cuore, appena gli passi i documenti e scartopellando con la loro ghigna vedono che fai ricerca, beh, ti guardano, ti sorridono e ti danno una pacca sulla spalla. Ma questo vi garantisco che è successo tutte le volte che io sono rientrato negli Stati Uniti con tutti i doganieri che ho incontrato a Boston. Questo è fondamentale. Così come è fondamentale la criticità delle persone, così come è fondamentale parlare di questi aspetti, perché sta ricerca poi alla fine in Italia è un po' vista come una perdita di tempo, ma fai ricerca, ma vai a lavorare, vai. Beh, questo atteggiamento deve cambiare, perché non è così che è. La ricerca è un lavoro estremamente importante, come tanti altri, né più né meno. Le persone che lo fanno con passione, e questo è fondamentale, perché se vuoi fare questo lavoro devi avere passione. Uno dei più grossi scienziati al momento italiani, di ricerca di base, come al solito, che è Dado Boncinelli, che ha scoperto una serie di geni fondamentali per lo sviluppo, questi geni Ox, dei vari distretti del sistema nervoso, per esempio, la compartimentalizzazione, cioè è una cosa impensabile. In un'intervista, e queste sono parole sue, quindi non è roba mia, al giornalista che gli diceva: Dado, descriverci in una parola, in una frase, cos'è la vita del biologo? Dado Boncinelli gli rispose: un giorno di felicità per 364 giorni di disperazione. Perché così è, cioè facciamo ipotesi in base alle nostre idee, a quello che troviamo pubblicato, alla nostra esperienza, e poi con metodo proviamo a testarle e a vedere se effettivamente le cose vanno nella direzione che pensavamo o no. Ecco, 364 giorni all'anno è no, e quindi tutte le volte devi tornare indietro e dire ok, dov'è che le cose non funzionano, e ridevi metterti, ma non perché siamo cerebrolesi, insomma, perché stiamo cercando di capire cose veramente complesse. Cioè le macchine sono state costruite pezzettino dopo pezzettino. Ora qualsiasi meccanico sa come funziona. Noi una macchina ce la siamo trovata fatta, la cellula era lì prima che qualcuno pensasse a di che è sta roba, come funziona. E in più la maggior parte della roba che studiamo non la vediamo, non la tocchiamo, perché è così che è. Quindi capite che prova, pensa, vedi se c'è la tecnologia giusta per affrontare la domanda, prova ad affrontarla, guarda il risultato, va nella direzione giusta? Ok, non va. Step back. Piangi sotto il tavolino un attimo, perché casomai è un mese che lavori, tutti i giorni un pazzo quella cosa lì, però fai un passo indietro, ok, ti rilassi, riapri la letteratura, cerchi di capire se ti è sfuggito qualcosa, cambia approccio sperimentale, discuti un sacco con i colleghi, perché ovviamente lo scambio di idee è fondamentale, e internet ha fatto fare un salto, perché la divulgazione veloce di lavori, di dati, di informazioni, i contatti con le persone, cioè questo ha velocizzato tutto, ha migliorato tutto. Ma appunto è veramente complessa, e quindi il supporto passionale delle persone comuni è veramente benzina per chi fa questo lavoro. Quindi di nuovo grazie di essere qua, anche se c'era una partita piuttosto importante, mi sembra, anche se io non amo il calcio, però capisco che può essere stato un doppio sforzo. Quindi grazie di nuovo per essere qua, e spero che questa cosa capiti, ricapiti, e se volete siamo a poco, io l'ufficio è sempre aperto. Grazie, grazie di nuovo. Beh, allora, prima di tutto un grazie nuovamente ai nostri ospiti di questa sera. E prima di iniziare con la parte delle domande e della discussione, vorrei leggervi la seconda parte del brano che ha iniziato adesso prima, dopodiché ci sarà un breve intervallo in cui Luisa passerà con la scatola e potete inserire le vostre domande e così. Allora, questa parte del brano si intitola «Le mele risalgono sugli alberi?». Dunque, perché una teoria possa essere considerata scientifica, afferma Karl Popper, deve poter prevedere un esperimento che, se riuscisse, potrebbe smentirla. Cosa vuol dire? Semplicemente questo. Noi sappiamo, per esempio, che, in base alla gravitazione universale, le mele cadono dagli alberi. Ecco quindi l'esperimento che potrebbe smentire le leggi di Newton. Un esperimento che dimostrasse che le mele possono anche risalire sugli alberi. Se si riuscisse a fare un tale esperimento anche con una sola mela, le teorie di Newton sarebbero falsificate. Le sue teorie, dice Popper, sono quindi scientifiche perché sono falsificabili. La psicocinesi, una delle specialità della parapsicologia, non è in grado di produrre un esperimento falsificabile. Essa afferma che, a volte, ma nessuno l'ha mai visto sotto controllo, certi oggetti possono muoversi da soli e levitare. Al limite, quindi, una mela potrebbe risalire sull'albero. Ma ammesso che si volesse prendere per un attimo sul serio i racconti fantasiosi di queste persone, come si potrebbe organizzare un esperimento capace di falsificare la loro teoria? Non è possibile, perché anche se si ponessero sotto controllo tutti i meli e i meleti del mondo per un anno intero, qualcuno potrebbe sempre dire che una lievitazione è avvenuta l'anno prima, o avverrà l'anno dopo, oppure che non si è osservato bene un certo melo che si trova nel Tibet, eccetera. Si tratta quindi, secondo la definizione di Popper, di una teoria non scientifica, poiché non è falsificabile. Del resto, quando si esce dalla sperimentazione, tutto può essere detto sostenuto. Io posso dire che mia zia salta 8,60 m con l'asta, ma se non lo dimostra davanti agli altri, e quindi giustamente questo presunto risultato non viene omologato, non posso atteggiarmi all'ultima di una congiura. Gli altri, anzi, hanno tutte le loro buone ragioni per diffidare di me e di un tale modo di agire. Perché tutto il passato è pieno di esempi del genere, anche illustri. Si sa infatti che in passato, prima di Galileo, c'era tendenza a dare al mondo delle idee una posizione preminente rispetto a quella della sperimentazione. I grandi uomini della storia, come lo stesso Aristotele, sono stati in seguito severamente criticati, poiché molti hanno visto nel loro modo di impostare la scienza un forte ostacolo all'avanzamento del sapere. L'esperimento deve essere visto come un setaccio destinato ad eliminare impietosamente le idee sbagliate o le ipotesi errate. È il cimento galileiano, cioè la prova a cui bisogna sottoporre qualsiasi tesi o per abbandonarla. Una verifica critica che, del resto, vale anche purtroppo in ogni istante della vita di uno scienziato, persino quando egli ha conquistato fama di gran sapiente. Niente, infatti, lo salva da un possibile errore. La selezione naturale della scienza opera dunque non solo nei confronti delle teorie e degli esperimenti, ma anche nei confronti degli uomini. I meriti passati non contano. Ogni volta bisogna ricominciare da capo, come nello sport, appunto. Ma se il metodo sperimentale rimane la strada maestra della ricerca, molto si è discusso e molto si discute ancora sulle relazioni che debbono esistere tra teoria ed esperimento. Come si devono coniugare insieme questi due elementi fondamentali della ricerca? E, ecco. Notevole. Se mi permettete, vorrei fare un brevissimo, veramente brevissimo intervento su quello che avete visto sicuramente alla televisione qualche giorno fa. Grillo, per quanto io lo adori, non l'ho mai votato a dire la tutta, ma lo seguo dai periodi di Trado io l'America, Trado io il Brasile, forse qualcuno di voi forse troppo giovane per sapere queste cose. Era una voce critica, non aveva paura di dire le sue, quindi una persona interessante. Ecco, l'altro giorno con quel discorso sulla mammografia l'ha proprio buttata fuori dal vaso, direi. Ci siamo le due cose. Se ci sono delle evidenze, se lui ha delle prove per cui Veronesi si è intascato dei soldi favorendo la vendita, la produzione e la vendita di mammografi, che vada dalla Guardia di Finanza o da chi che vuole e metta giù le prove. Va benissimo, cioè Veronesi è una persona che ha fatto il suo percorso, ha fatto un sacco di belle cose, se ora si è sporcato le mani pagherà, chi se ne frega. La seconda cosa, che invece è estremamente grave, va bene, è che la mammografia, così come altri tipi di screening, il colon per esempio, quindi l'endoscopia, così come, non so, PSA per la prostata, ma la mammografia e l'endoscopia, queste sono cose che salvano la vita. È vero che non previene, non bloccano la crescita tumorale, il tumore c'è già, ma se fate screening e il tumore viene preso nelle fasi iniziali e viene tolto chirurgicamente, il problema è risolto. Ok? Quindi è fondamentale fare questi tipi di analisi, veramente fondamentale. Quindi mi dispiace perché ho detto Grillo era una persona, secondo me, da ascoltare, ma stavolta l'ha proprio buttata fuori. Quindi se qualcuno gli era passato così, tra un neurone e un altro, di sai che c'è, le donne per quanto riguarda la mammografia, mi faccio per la mammografia, tanto Grillo ha ragione, no guardate, questo è uno sbaglio veramente colossale, ok? Bene, e gli uomini, soprattutto gli uomini, endoscopie per il colon, così via. Veramente fondamentale, cioè prendere qualcosa che sta appena iniziando, vuol dire aver salvato la vita, accorgersene quando cominci a sentire che c'è un nodulo grosso così su un seno, può essere veramente tardi se il tumore al seno è quello, è quello che porta sotto terra. Quindi, di nuovo, mi dispiace per Grillo, ma a sto giro l'ha veramente buttato fuori, quindi non pensate di smettere di fare un esame di questo genere, ok? Sarebbe veramente una cosa poco intelligente. Chiusa parentesi. In generale io direi di stare attenti a quello che dicono i politici, perché siamo bombardati da cose che stanno fuori dal mondo. La ricerca sugli animali non va fatta. Va bene, è giusto non farla quando non è necessario, è giusto farla regolamentata, seguendo delle regole, essendo controllati da persone che sanno quello che devono controllare, come controllarlo, in modo tale che tu non fai cose inutili, non usi più animali di quelli che servono. Però i farmaci non è che si possono provare sull'uomo, allora facciamo ricerca sull'uomo. Ci sono tutta una serie di passaggi che devono essere fatti in modo da arrivare sul paziente prima. E naturalmente non si può andare direttamente sul paziente, se no più che aiutare il paziente lo usiamo come cavia, e quindi passiamo dalle cavie animali alle cavie umane. Torniamo ai tempi dei nazisti, quindi seguendo un sillogismo rigido su quello che propongono alcuni esimi politici, noi dovremmo tornare al tempo dei nazisti. Sì, non va fatto ciò che non è necessario, esattamente, siamo tutti d'accordo, però quello che è necessario sotto certi aspetti per portare a un fine che porti del bene a tutti, forse va fatto, no? Assolutamente. E questa è un'altra parentesi importante, specialmente nella ricerca in Italia, che ha adottato delle direttive molto molto stringenti. Cioè, l'Europa ha dato delle direttive per la sperimentazione animale con una certa flessibilità data a ciascun singolo Stato di decidere a che livello porre quest'asta. L'Italia l'ha messa a livello più stringente e voleva andare oltre ai limiti anche imposti dalla comunità europea. Io ho detto, venendo dagli Stati Uniti, l'Inghilterra, sono tutti paesi che tengono molto d'occhio la sperimentazione animale, hanno creato loro le regole. Vi garantisco che le ispezioni arrivavano anche la notte mentre eri che lavoravi e ti trovavi gli ispettori alle spalle. Giusto, sperimentazione animale deve essere regolamentata. Ma vi faccio un esempio, parlo di quello che conosco, ovviamente. Tumore. Ma il tumore è un sistema estremamente complesso. Parla e interagisce con le cellule dello stroma che sono intorno al tumore. Parla e interagisce con le cellule normali dell'epitelio, per esempio, dove si è sviluppato. Parla col sistema immunitario, il quale fino a qualche anno fa si pensava che fosse la nostra cavalleria, no? Che servisse per attaccare il tumore, che il tumore trovasse meccanismi per nascondersi. Assolutamente vero, per alcuni tipi di cellule del sistema immunitario. Ora viene fuori che altre vengono invece chiamate attivamente dal tumore mediante dei segnali di secrezione, come alcuni che diceva Citricolina, per esempio, non è uno di questi segnali, ma il concetto è solido. E vengono reclutate intorno al tumore perché in alcuni casi queste cellule proteggono il tumore dai farmaci che stiamo usando per combattere il tumore. L'irrorazione sanguigna, per esempio. Cioè, queste sono cose che in una petri dish, che sono i nostri piattini di plastica, dove abbiamo sopra uno strato di cellule tumorali, per esempio, senza nessun altro di quei componenti che vi ho detto un secondo fa. Cellule che sono state estratte da un paziente 60 anni fa e che è 60 anni che crescono nei nostri laboratori. Ma quante informazioni pensate che io possa acquisire da un sistema del genere per portare poi un meccanismo, un farmaco in clinica? Ve lo dico, quello che si poteva tirare fuori da sistemi di questo genere l'abbiamo già tirato fuori, abbiamo strizzato il sistema. Ora bisogna andare oltre, e quindi per andare oltre serve una complessità che si trova solo all'interno di un tumore, per esempio sviluppato in un organismo. Al momento i topi, per quanto mi riguarda, è il sistema modello. Bene. Luciano ha parlato dei pazienti. Vi faccio un altro esempio ancora che complica la cosa, perché poi ovviamente chi è dentro questo field, la ricerca, specialmente appunto tipo me, che tiene un piede, quella che è ricerca di base, e un piede, un occhio, una collaborazione con l'oncologia medica qua, la patologia qua e quelle di Boston. La sperimentazione di nuovi farmaci, ok, identificati, caratterizzati da ricerche, testati, già, per tossicità, nel momento in cui entrano questi famosi trial clinici e quindi inizia la sperimentazione sui pazienti, questi pazienti, per quanto riguarda il tumore, sono pazienti terminali. sono pazienti che hanno già passato e il cui tumore è diventato resistente praticamente a tutti i trattamenti che sono fatti dal 1960, che si chiamano standard of care, cioè le terapie quelle che devono essere fatte. Qual è il problema? Che il tumore ha un brutto vizio, ha quello di variare, ok? Ora sappiamo che i tumori solidi, per esempio un tumore alla rene, che può raggiungere queste dimensioni, bene? Prima di cominciare a dire, sai che c'è, ma quando mi piego mi fa un po' male la schiena, ma cosa sarà? Vai a fare un ultrasound e ti trovano una palla così al surrene. Ecco, un tumore del genere, queste dimensioni, se te vai a fare tutta una serie di analisi per capire che tipo di meccanismi sono deregolati e che hanno scaturito il tumore, e prendi un campione qui, un campione qui, un campione qui, rischi di trovare tre tumori diversi da un punto di vista genetico e molecolare. Tutti che hanno almeno un aspetto comune che è stato l'evento iniziale, ma poi come grammi di un albero, si sono, oltre a quell'evento, hanno acquistato qualcos'altro e sono andati sulla sinistra, qualcos'altro, sono andati sulla destra e così via. Questo non è ricapitolabile in una Petri, non si riesce a combattere, a capire come combattere quei mostri lì lavorando soltanto in vitro, va bene? Non è possibile, non c'è modo. Allora, bene, blocchi la sperimentazione animale? Basta! Cioè stai dicendo che non vuoi fare più ricerca per trovare veramente come poter, non voglio ricurare, prolungare la vita e migliorare la qualità di vita, ritengo basso, di pazienti che sono pazienti terminali. Bene. L'altro problema tecnico è che appunto questi tumori hanno già visto una prima terapia che ha funzionato per un po' e poi il tumore ha acquistato resistenza, poi la seconda linea, il tumore ha risposto, ma ha acquistato resistenza. Quindi io vado a sperimentare sui pazienti un farmaco che potrebbe avere delle potenziali mostruose se dato subito al paziente, lo vado a testare per l'efficacia su un tumore che è stato già martellato tutta una serie di volte con tutta una serie di terapie che l'hanno fatto semplicemente diventare non aggressivo, non resistente, impossibile da trattare, e quindi il farmaco laggiù mi fallisce. Ma io per etica non posso usare, per quanto casomai potrei avere milioni di motivi per poter dire guardate, testiamolo sui tumori primari non trattati con la radioterapia, con la chemioterapia, datemi pazienti col tumore primario non trattati, vi dimostro che questo farmaco risolve il problema lì. Ma se me lo fate testare su pazienti che ormai sono stati già trattati 100 volte, il tumore è troppo aggressivo, a quel punto il farmaco non mi funziona. Ma non si può fare per etica, perché per etica i pazienti devono fare il percorso delle terapie standard che devono essere fatte. È giusto? È sbagliato? E io sinceramente al momento la risposta non ce l'ho, anche perché si sta parlando della pelle delle persone, ma questi sono i problemi. Cioè questi farmaci droppano, falliscono, mentre casomai potrebbero essere micidiali nella loro efficacia, perché la situazione è questa. Come si può risolvere questo problema? Non ve lo so dire. Mi levate anche una sperimentazione in vivo? Beh, ritorniamo a far cascare le arance dentro le colture batteriche, perché rimane veramente, rimane solo quello. Poi, se venite, troverò il modo di farvi entrare nello stabulario e vi dimostrerò che topi che sviluppano tumore, se hanno due peli fuori posto, vengono sacrificati. Va bene? Per le leggi e perché si lavora in questo modo, nel senso che la sofferenza indotta sugli animali non è contemplata. Non è contemplata per morale e non è contemplata perché, da un punto di vista sperimentale, per rimanere sul metodo, se vuoi fare un parallelismo cercando di veramente tenere in considerazione il più possibile fra l'animale e il paziente viene messo sotto analgesici, sotto antidolorifici, non ha lo stress da dolore, che non è soltanto pena, è l'innesco di una serie di meccanismi, neurotrasmettitori, quel tutto che volete, che va sicuramente a influenzare l'efficacia di un farmaco. Se aumenta il metabolismo, aumentano le pulsazioni, il farmaco mi rimane metà del tempo in circolo. Quindi non è soltanto perché non è giusto far soffrire degli animali, su questo non ci piove, ma è anche per rigore scientifico, cioè cercare di non tenere un animale in sofferenza, perché quello che otterresti come risultato potrebbe essere totalmente falsato dallo stress, dal punto di vista molecolare, a cui è sottoposto l'animale, che non è lo stress a cui è sottoposto il paziente. Quindi vi dico, cioè, la regolamentazione per la sperimentazione animale è veramente stringente, vi garantisco, più stringente che non negli Stati Uniti. Okay? Io ho mandato via il protocollo di sperimentazione animale a un organismo che è stato fatto in provincia, e poi, se la valutazione sarà positiva, andrà al ministero. Ho impiegato, e non sto scherzando, sono stato 2 mesi per scrivere 28 pagine. 2 mesi, eh? 2 mesi di lavoro, tutti i giorni, dalla mattina alle 9, alle sera alle 6:30, 7, per scrivere quello che mi stavano chiedendo. Una cosa del genere negli Stati Uniti, vi garantisco, non esiste. Quindi l'Italia si è messa in una condizione veramente eccessivamente stringente. Troppo, troppo. E il problema è che poi, appunto, chi è che ha messo l'asta così basso? Qualcuno che sa di cosa parla? No. E allora scusate, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Un approccio classico per la prostata è l'androgen deprivation. Quindi si toglie testosterone al paziente. Un tempo si faceva per orchiettomia, cioè venivano fisicamente castrati, perché la fonte sono i testicoli. Oggi è comunque l'approccio migliore, perché i farmaci funzionano, ma non quanto le va la fonte alla radice. Bene. Quello che fai sugli animali è andare in parallelo e vedere come un tumore con una certa genetica, in determinate condizioni, risponde all'androgen deprivation fatta chimicamente con i pazienti, la maggior parte dei pazienti, o fatta per orchiettomia. Allora, rivoluzione, perché venne fuori in una conferenza stampa che facevamo orchiettomia sui topi. Orchiettomia vuol dire topo in anestesia, tenuto su un lettino riscaldato per controllare la temperatura, gli si controlla battiti cardiaci, ok? Quindi un'incisione di 1 centimetro sullo scroto, 1 secondo per estrarre i testicoli, ricuci, bene? Lo rimetti in gabbia, dopo 5 minuti il topo è giro, mangia, si ammazza con quegli altri topi che sono nella gabbia, come se nulla fosse. Quindi sofferenza zero. La procedura chirurgica molto tenuta sotto controllo, ok? Rivoluzione nella sala della conferenza, perché facevamo orchiettomia ai topi. Se non che il mio capo italiano, ma di quelli con quello sullo stomaco, con l'esperienza non dice più, fa una semplice domanda alla platea. Gli chiede: quanti di voi ha un cane e un gatto in casa? Gatti in America non vanno tanto di moda, lo garantisco, forse si rimangiano, non lo so, ma cani ce n'è una quantità industriale. Ovviamente 3/4 della platea così. Quanti di voi l'hanno castrati? Tutti quelli avevano un cane. Però cosa fanno gli statunitensi? Per diminuire lo stress del cane che è castrato, che è stressato perché si rende conto di non essere castrato, si sono inventati di rimettere dentro delle palline di plastica. Ora, io se il ministero me lo chiederà, rimetterò dentro palline di plastica al topo, ma cioè si raggiunge veramente dei livelli che sono veramente assurdi. Insomma, vi ripeto, cioè, non far soffrire gli animali che sono nei nostri stabulari è una condizione essenziale e a cui teniamo più che alla vita dei nostri postdoc, che vengono massacrati. Okay. Il postdoc si cambia, un animale a 6 mesi di esperimento è tenuto come postdoc. Quindi questa è una piccola, non è stata tanto piccola, ma è una parentesi che, visto che Luciana l'ha tirata fuori, mi tocca, perché il mio lavoro è in massima parte un lavoro su Quindi scusate della parentesi, del piccolo sfogo. Trasversale, no, rispetto a quello che diceva per esempio lui prima, il discorso stamina e adesso quello che sta dicendo lei, cioè il fatto che per quanto metodo scientifico, rigoroso, eccetera, eccetera, eccetera, poi c'è sempre l'aspetto emotivo, no? Nel senso che poi stamina, come questa cosa degli animali, va a trovare il terreno fertile proprio sull'emotività delle persone. Allora, certo. La mia prima riflessione era come la ricerca, la scienza e tutto quello che voi avete detto, che condivido pienamente, abbiamo fatto un certificato come scienza più che altro, e deve comunque fare i conti con l'aspetto dell'utilità delle persone, e con quella parte che non ha a che fare appunto con i risultati, con ipotesi, con la sperimentazione, con la confutazione, tutte queste cose, ma è con la speranza che quella cosa lì comunque, no, faccia sopravvivere o no, quindi con un aspetto diciamo anche magici, se vogliamo, eccetera. Certo. E allora stavo pensando che l'unica strada è la cultura, cioè della serie, che se noi non partiamo da, ma non da no, dai bambini, sì, a impostare le questioni in un modo scientifico, cosa che la nostra scuola non fa, assolutamente, in quella italiana, non ne usciamo, anche sì, perché vabbè, l'Italia, cioè, dire, no, in Italia succedono certe cose, no? Certo. I politici non hanno metodo scientifico, cioè uno dei Grillo che dice no al genere, perché no, sì, no, non utilizzano metodo scientifico. Assolutamente no, ma infatti. Sì, ma io direi anche una cosa: cultura, ok, però anche informazione. Chi ha in mano la possibilità di informare in modo corretto la società non lo fa, perché di stamina se ne è parlato in lungo e largo su mille trasmissioni. Quante volte si è detto che Vannoni è stato condannato perché quella era una truffa? L'hanno detto una volta. Però è una volta rispetto a 100 miliardi di volte in cui in televisione è passato che il metodo stamina funziona. Quindi l'informazione è questa, l'informazione, diciamo, indipendentemente dalla scienza o non scienza, è la manipolazione dell'informazione. Adesso si cerca sempre di fare scalpore, perché far scalpore significa attirare l'attenzione delle persone, attirare l'attenzione delle persone significa poterle manipolare. Quindi il fine ultimo non è aiutare la società a crescere dell'informazione attuale, ma avere una società da manipolare. Quindi il problema vero è quello, è solo quello, e va incontro alla cattiva informazione in ambito scientifico, ma va incontro a cattiva informazione su mille altri aspetti che colpiscono la società. È l'informazione in sé che è aberrante e ormai è uscita fuori controllo, secondo me. È molto più grande il problema, va oltre la scienza, va a livello sociale proprio, in modo profondo. Se mi permette, citando un po' Galileo, qui stiamo parlando di sfere che non sono sfere e piani che non sono piani, per cui è possibile avere un approccio scientifico anche alla questione dell'informazione. Da dove partono loro la maggior parte degli... della remunerazione? La pubblicità. Quindi non stanno vendendo informazioni al pubblico, stanno vendendo pubblico agli inserzionisti. E devono individuare, se ipoteticamente avessero un approccio estremamente razionale, cosa che francamente dubito, una fetta di pubblico che sia influenzabile, perché se il pubblico che loro attirano, dice questo sta cercando di vendermi qualcosa, ha un interesse a farlo e quindi faccio la tara, non gli funziona più la pubblicità e non gliela comprano, detto proprio. Sì. Sì, senza contare che c'è anche un altro problema, sempre sostanzialmente scientifico, qui parlo soprattutto di teoria dei giochi, conosco un po' meglio rispetto agli aspetti più medici, che il protocollo cosiddetto DEAD, Decide, Announce, Defend, funziona tendenzialmente meglio della ragion debole. perché in realtà anche l'episodio che citava prima di Yamanaka, se lui avesse detto la maggior parte delle persone pensano che stia dicendo una castroneria, mi rifaccio tutti i conti da capo, probabilmente non avrebbe sfondato, tra virgolette, il muro. Poi lui si è dimostrato che aveva ragione nel momento in cui si è dimostrato, nel momento che aveva una controparte ragionevole, ma altri 50 partono lancia in destra, se mi va bene, mi va bene, e se ho davanti un muro che è in grado di respingere le idiozie, magari mi arginano, altrimenti sono d'accordo. Questo forse voi lo sapete sicuramente meglio di me, mi pare di aver sentito addirittura che dal punto di vista proprio neurologico, psicologico, spesso la motivazione segue l'azione, non la precede. Cioè io apro la porta e poi penso che avevo caldo. Non so se questo... Sono sicuro di averlo sentito, non sono sicuro. In alcuni casi sì, prendi coscienza della motivazione dopo aver fatto... Sì, perché magari il tuo cervello ha già percepito a livello inconscio che fa caldo, però tu ancora non l'hai elaborato il tutto. Quindi sì, sicuramente sì. E volevo dire su Yamanaka... Yamanaka è giusto un esempio, come Yamanaka ce ne sono tanti altri che hanno fallito, però l'ho portato come esempio perché la rivoluzione, lo stravolgimento della scienza avviene grazie a queste cose, quindi avviene grazie a chi ha delle idee e le persegue. In alcuni casi va bene, in altri casi, molti, va male. Però basta un caso in cui questo va bene, che tu stravolgi quella che è la visione stantia di un aspetto e lo riporti a un livello superiore, permetti un salto, invece di fare un passo, in questo caso hai fatto un salto. Questo avviene a volte pensando in modo attento a quello che stai facendo e non farti influenzare da chi dice no, non capisci niente, no, è impossibile, perché ci sono tanti aspetti nella ricerca che hanno fatto vedere che niente è impossibile. Tutto è difficile, ma niente è impossibile. Quindi bisogna provare, bisogna essere coscienti, bisogna fare l'esperimento nel modo corretto, quindi devi avere anche la sensibilità per dire ok, posso riprogrammare una cellula, però magari c'erano mille altri modi diversi per approcciare il problema. Lui l'ha approcciato nel modo giusto, ha trovato l'esperimento giusto e ha trovato la chiave scientifica giusta. Tanti altri avevano provato a fare una cosa di questo genere, ma nessuno c'era riuscito. Tutto questo ha portato la comunità a dire no, è impossibile farlo. Però questo dimostra che non è impossibile. È difficile, ma non è impossibile. Scusi, questo significa, in parole un po' specie, che la scienza è basata su ignoranza, magia e fortuna? Magia no. Magia no. Se no saremmo degli alchimisti, però alcune cose ancora non si riescono a fare. Però ciò che non riesci a fare oggi, domani puoi farlo perché gli strumenti che adesso non ci sono, ma gli strumenti che ci sono domani, perché ce li hai? Perché c'è stata la ricerca di base che ha posto le basi per sviluppare tecnologie che ti permettono in un successivo momento di approfondire la ricerca di base per creare nuovi strumenti che ti permettono di fare anche cose che prima non potevi fare. È tutto una catena, però non puoi interromperla, perché se la interrompi a livello della ricerca di base, le tecnologie future non ci saranno, blocchi tutto e progresso non c'è. Tu hai il cellulare, io ho il cellulare, adesso posso vedere cosa sta facendo la Juventus. 15 anni fa potevo farlo con la radio, adesso abbiamo il cellulare, però non è che il cellulare è nato così, l'abbiamo colto in un campo, è applicazione tecnologica di ricerca di base, quindi è tutto connesso, il progresso è questo, quindi non è magia, è semplicemente avanzamento della conoscenza e delle applicazioni di questa conoscenza. questo. Sì, l'altro aspetto secondo me fondamentale, anche per ritornare al discorso che si faceva prima, è che ci sia il desiderio di ascoltare da parte di altri scienziati, se si parla di in termini scientifici, da parte di persone normali, se si parla di connessione fra scienza e opinione pubblica, cioè di presentarsi a un tavolo con veramente l'open mind, cioè devi stare lì e dire ok, io ho la mia visione, ma di nuovo casomai a fine serata la cambierò, spiegherò bene perché la mia visione è quella che è al momento in cui io mi siedo, ma sarò assolutamente disposto a rivisitarla. Cioè questo deve essere, questo è l'unico modo per far scienza, quando ti presenti veramente a questi congressi internazionali dove presenti il tuo dato, che è un momento ma forse ancora più intrigante e coinvolgente che non la pubblicazione, perché il momento in cui hai fatto la pubblicazione poi c'è la sbronza dopo la pubblicazione, ma insomma è un ambito ristretto. Mentre invece il congresso soprattutto è un momento in cui veramente te presenti i dati, li presenti, specialmente questi congressi piuttosto grossi, li presenti che se non sono per te definitivi, poco ci manca, quindi dai il tuo taglio ai risultati, dai la tua interpretazione, ma poi ascolti quello che ti viene chiesto, ascolti le critiche che ti vengono fatte e le valuti oggettivamente, senza pensare che siano attacchi personali e quindi sputando veleno a chi sta un attimo stuzzicato. Questo ogni tanto si vede anche quello. No, sì. Ogni tanto si vede anche alla fine siamo esseri umani e falliamo, ovviamente. Però questo è fondamentale per l'avanzamento della ricerca scientifica ed è fondamentale, vi ripeto, anche per non solo scienziati, ma scienziati pubblici. E questa è una delle più grosse critiche che mi muovo, ci muovo. In Italia siamo veramente nascosti. Al contrario di altri paesi dove queste situazioni di scambio, di conoscenza sono quasi settimanali e sono tutti super contenti di farle, di mettersi lì, in Italia ma chi conosce, chi ma ditemi il nome di uno scienziato che vi viene in mente, siamo forse rimasti, non so, Rubbia, forse, no, ci sono queste persone che sono estremamente di spicco, ma poi... Mentre invece ci sono fior fiori di persone che fanno ottimamente il loro lavoro, però che insomma ci si ricorda più il nome di un calciatore, io ho un po' il dente avvelenato col calcio, quindi sono un po' velenoso, ma non il nome di una persona che dall'altro lato fa scienza o sa qual è il tuo mestiere, insomma siamo un po'. In America c'è anche che diceva che l'atteggiamento diciamo è più positivo nei confronti della ricerca. C'è proprio a livello diffuso anche una maggiore fiducia, perché a me quello che sembra un po', mi pare di capire dalla cosa che ho letto, così che in realtà anche in America ci sono ad esempio forti movimenti antivaccini e cose simili, cioè vorrei capire cosa c'è di diverso. Sì, c'è un movimento razzista, è vero. Io ho un po' la sensazione che forse magari rispetto ad una volta in cui prima della fisica quantistica magari uno con un po' di buon senso e con un po' di buona volontà poteva capire, cioè io potevo magari, non so, fino a 800 capire quello che mi diceva veramente uno scienziato. Adesso no, nel senso che adesso io non posso pretendere di mettermi a parlare con un biologo e capirlo, e parlare con un fisico e capirlo, e parlare con un botanico e capirlo. Guarda che secondo me potrei... Io ho la sensazione che ci voglia, cioè perlomeno il mio sentimento è che devo fidarmi della passione e della onestà delle persone, e vedo da in altre persone invece un principio proprio di diffidenza totale, cioè non credo, dopo scontato che vogliano fregarmi e mi sembra che sia così, e non persone stupide, anche persone molto intelligenti che no, i vaccini perché te li vogliono vendere, e questo è la chemio è perché costa un sacco, te la vogliono vendere ed è fatta ammazza, ma un sacco di gente sì, però adesso il concetto è che si fanno passare opinioni per scienza, quelle sono opinioni, per passare ad essere un fatto scientifico devono esserci le prove di, per, adesso e quindi è importante che le persone si capiscano di chi fidarsi, cioè se passa uno per strada e mi dice finisce il mondo, sì, però capisci che se tu allora hai un medico e hai un uno psicologo e ti viene a dire prendi queste cellule, lo psicologo che è, io ho prodotto un metodo che ti guarisce, basta che prendo queste cellule e te le impianto e tu guarisci, e quando c'è un medico che ti dice non è stato dimostrato da nessuna parte, e quello è uno psicologo, e quello è uno psicologo, tu a chi crederesti? Io a chi? Allo psicologo. Perché magari te l'ha detto in modo da colpire gli aspetti emotivi, perché magari tu stai male, però devi astrarti da questo. E anche vero che chi ha più... a noi piace ascoltare la storia bella, tanto che però la realtà non è bella, la realtà è la realtà che cade nel Petri, mentre la storia del ricercatore che per 264 giorni l'anno fallisce non è bella, però è la realtà. Purtroppo è una quindi proprio di immagine, di comunicazione, nel senso che la gente piace che le cose siano facili, lavorare in un museo siano facili, quando una cosa non la capiscono non ci credono, cioè nel senso che io te la posso cercare di spiegare, ma è difficile, cioè però, non è che la scienza è facile. Posso dirti una cosa, nell'Ottocento gli scienziati non andavano dalle persone a parlare. Parlavano tra di loro e basta, gli altri chi se ne frega. Adesso gli scienziati stanno facendo questo sforzo, anzi stanno attuando qualcosa che era giusto fare, che era l'informazione e la condivisione, non solo tra gli scienziati, ma anche a chi sostiene la scienza, perché la scienza deve essere sostenuta dalla società, è parte della società, non è un qualcosa di estraneo, e che alla fine la società potrà beneficiarne. Quindi c'è questo processo che purtroppo in Italia è iniziato tardi. Negli Stati Uniti, in Inghilterra è normale, ti dico, in Inghilterra ogni giorno sulle pagine dei giornali parlano di ricerca, qui in Italia hanno iniziato a farlo la domenica parlando di stamina. Quindi si può essere veramente ottimisti, perché al momento sono molto pessimista. No, il pessimismo mai, guarda, non puoi essere pessimista, non porta da nessuna parte alla fine il pessimismo. È come se mancasse, cioè veramente bisogna trovare il trucco per capovolgere un po' la situazione, perché adesso mi sembra che ci sia veramente una marea di antiscientismo e diffidenza e teorie di complotto contro una isoletta di melma di resistenza, come dire. Ma è vero, ma anche perché, come hai detto prima, un modo invece di dover imparare a interloquire con le persone. Sì, perché quello. Molto spesso c'è anche questo problema qua, no? Qual è la caratteristica di uno psicologo? Uno psicologo sa parlare e ti sa in qualche modo infinocchiare. Il medico molto spesso, lo scienziato, è duro nelle affermazioni che fa. E non è perché vuole essere duro per parlare. C'è qualche psicologo qui? Quanti psicologi ci sono? Però tu non fai metodi biomedici, non proponi alla gente metodi biomedici. Però c'è anche questa. E non so se sono d'accordo, ma non so se basta. Perché a me sembra che, tipo, la cosa dei prendi i vaccini perché sono proprio una cosa eclatante, no? Quello ormai, caspita, ma veramente non si può avere dubbi, è una pubblicazione che poi è stata ritirata perché era falsificata, e ancora adesso, ma i medici stessi, ho una amica che ha una bambina, ci ho litigato perché lei da tagliato ha detto che cioè no, vaccinare è una scelta, perché come c'è? Il pediatra, ma caspita, cioè è possibile che ancora l'abbiamo, cioè è stato comunicato immagino qualcosa dei vaccini, eppure l'idea ci sono idee più attraenti e probabilmente la verità è meno attraente di delle cavolate. Semplicemente si crede molto di più a quello che viene raccontato dal volco piuttosto che è un problema, però cioè, non so se sì, ragazzi, ma questa è una problematica di formazione, di come veniamo formati noi a scuola. No, sì e no, anche che dietro la maggior parte del motore sono le robe farmaceutiche e non solo quelle, quindi attenzione. Ma guarda per andare giusto a questo concetto, che è un concetto che suona spesso, ovviamente è fuori di dubbio che le case farmaceutiche siano profit, quindi non si scappa. Ma il concetto che, per esempio, questa è un'altra cosa che sento, che le case farmaceutiche non rilascino farmaci che curano, perché gli conviene più tenere pazienti sotto farmaci piuttosto che curarli. Cioè ci sono dei concetti che non sono veramente materializzabili. Questi sì. Anni passati a Boston sono stati veramente al gomito con responsabili di case farmaceutiche importanti. No, cioè, ce ne sono talmente tanti di malanni che, cioè, per pensare di chiudere le case farmaceutiche perché sono finite e abbiamo curati tutti, è praticamente impossibile. Ricordiamo che fare un farmaco vincente per una casa farmaceutica vuol dire spiazzare tutte le altre sul mercato e conseguentemente lasciare che il guadagno sia tutto suo. Quindi no. In realtà c'è sempre questo doppio aspetto, ok, su alcune cose siamo d'accordo, però non è proprio poi fino in fondo così vero il fatto che la casa farmaceutica necessariamente lotti determinate sì. Cose. Vorrei fare un esempio. Non so se qualcuno di voi si ricorda del metodo di Bella, sì. Questo metodo miracoloso che avrebbe curato diversi tipi di tumore, che avrebbe guarito qualsiasi cosa. Quel personaggio lì c'era stata un'uscita di grillo un po' strana. Ecco, allora io voglio dire, il metodo di Bella presupponeva l'uso di tanti di quei fattori di crescita o molecole che sono costosissime. E le industrie farmaceutiche sarebbero state contente che questo metodo fosse stato funzionante, perché avrebbero guadagnato tanti di quei soldi. Però, cosa si diceva? Il metodo di Bella non viene fatto passare, perché? Perché se con questo metodo si guariscono i tumori, le case farmaceutiche perdono il loro profitto. In realtà no, l'avrebbero aumentato il loro profitto. Però a livello di informazione, chi proponeva questo metodo come metodo che funzionava diceva che erano le case farmaceutiche che non volevano, non dicevano che era il metodo che non funzionava e che gli altri scienziati avevano provato a usare questo metodo ma non dava risultati. Quindi il mito delle case farmaceutiche che devono solo guadagnare e ci sono queste lobby è vero fino a un certo punto, ma spesso viene tirato in ballo in modo un po' sproposito per giustificare altre motivazioni. Ancora una volta, secondo me, su alcune cose manca una concezione di un metodo scientifico ma di base, cioè come faccio a verificare la plausibilità prima ancora della veridicità di un'informazione che mi arriva? Non so, immagino che a molte delle persone in sala sia arrivata la catena, potremmo pagare la metà la benzina. Sì, se vai in Arabia Saudita anche di meno la puoi pagare. No. È vero, non so se, volendo. Non so se hai visto la catena. No, certo, siamo bombardati da queste cose. Proponeva sostanzialmente una sorta di boicottaggio completo perché abbassassero i prezzi. Al di là degli aspetti prettamente tecnici, però significa non. E tra l'altro, supporre che. Ma la maggior parte delle teorie complottiste suppongono. Sì, cerco di finire una frase prima di aprire la successiva. La maggior parte delle teorie complottiste presuppongono un estremo controllo e omogeneità di comportamento e determinazione da parte di soggetti che sono tendenzialmente in concorrenza tra loro e quindi sarebbero ben felici di eliminarsi l'un l'altro. Cioè, anche la questione dei cartelli dei prezzi in certi casi esistono, però laddove non esistono non è perché non vorrebbero farli, perché non sono capaci, perché se alzano del 10%, il vicino lo alza solo del 5% e gli frega la clientela. Quindi tu dici non esiste una lobby delle case farmaceutiche, ma sono in concorrenza. Sì, sostanzialmente, perlomeno non in termini così spudorati da hanno tutti in tasca la soluzione ai problemi energetici del mondo, ma finché non finisce il petrolio lo tirano fuori. Perché se qualcuno ce l'avesse, ce l'ho io, prevetto, no. Certo. Le ho già trovate, le stanno anche già usando, ma ma non sono ancora economicamente compatibili. Vedi l'impianto GPL, l'impianto metano, vedi l'energia solare, vedi l'energia eolica. Tu prova a pensare di prendere tre pannelli fotovoltaici che insieme fanno 3,5 kW e riempire tutti i tetti di ogni casa di pannelli fotovoltaici. Posso farti una domanda? Quanta energia ti serve per purificare il silicio per farmi? Quella che faresti, okay, quella che faresti. Posso risponderti anche? Nella stessa maniera di finendo il tuo percorso. Vabbè, però non sta parlando di questo. Ma cioè, che ci siano interessi e che, come dicevo prima, ovviamente i farmaci sono profit, cioè, la finale della storia è company, vendita. Però, di nuovo, non voglio che pensiate che per me l'America è... se non ci sarei rimasto, insomma, dopo 5 anni ho preso e sono tornato via, quindi c'è tutta una serie di pregi che secondo me potremo, come dicevo con Luciano prima, semplicemente copiare, perché a volte sarebbe talmente semplice, le cose che funzionano sono evidenti in altri paesi, le puoi applicare? Sì, forse non totale, ma il 90% la applico, la prendo, no. L'America ha un altro pregio che in effetti non guarda in faccia tanto a chi c'ha soldi. Se ci sono delle evidenze per cui una company, una casa farmaceutica, una lobby ha chiaramente torto, ci vanno giù. Voglio dire, nel momento in cui hanno messo su pacchetti di sigarette scritto così, guardate che questa roba che qui dentro vi ammazza, quello in teoria, cioè l'obbligo della Marlboro di mettere frasi di quel genere su un pacchetto doveva fa ma non crollare in teoria le vendite del tabacco, doveva polverizzare. Nessuna lobby del tabacco ha detto siamo morti, ora bisogna inventarsi qualche cos'altro. Hanno messo la loro stampa sui pacchetti e hanno continuato tranquilli a fare quello che dovevano fare. Perché? Quanti di voi hanno smesso di fumare? O quanti di voi hanno ridotto il numero di sigarette dal momento in cui è uscito? E guardate che qui c'è scritto una cosa, fra le domande, che tappicci con te due, perché a me mi si sono fusi due neuroni solo a leggerle, ce n'ho tre, quindi una domanda è la prevenzione. Il fumo vi frega, ok? Poi tutti quelli che fumano crepano di tumore al polmone? No, non è vero. C'è da vedere che io domani sono sottoterra e non ho mai fumato una sigaretta e neanche altra roba, niente, non ho mai messo un boccato, niente, né sigaretta, né pipa, né altra roba, niente, nulla, e casomai domani muoio di tumore al polmone e quella accanto a me che si è fumato 40 pacchetti di sigarette al giorno campa 150 anni. Però... okay. Così come non vi posso garantire che se vi mettete a piedi in autostrada controsenso vi ammazzino, ma la probabilità è parecchia piuttosto che io che casomai me ne sto sulla mia pedana. Quindi ci sono delle cose che sono poche, non so chi ha scritto questa cosa per la prevenzione, cioè perché cercare di curare qualcosa e non capire come evitare che quel qualcosa avvenga, parlo di tumore ovviamente. Perché è difficile capire quali sono gli agenti, chiamiamoli esogeni, okay, che possano promuovere o facilitare l'insorgenza dei tumori. Uno è il fumo, okay? Quindi quello che vi posso garantire è che se fumate e fumate in modo consistente, specialmente se avete iniziato a fumare da giovani, vuol dire quindi da 15 a 20 anni, la probabilità che vi venga è piuttosto alta. Così come una cosa che farei, se la legge me la permettesse, sarebbe di menare i genitori che fumano con la carrozzina del bimbo a un metro, perché quello vuol dire veramente rischiare grosso, ok? Chiusa parentesi. Ma di fattori che scatenano veramente una patologia ce ne sono veramente pochi ad oggi identificati, o che promuovono più che scatenano, ok? Uno per esempio per il Parkinson è Parfa, che è una parte dei pesticidi diserbanti che venivano usati a fiumi. Okay? Quello si sa perfettamente che va a fregare con le cellule che scatena Parkinson, è un Parkinson chimico. Okay? Eternit. Ma... Eternit. Certo, l'Eternit. No, ci sono alcune cose, ma sono veramente poche. Quindi capire come prevenire è rischioso. Si parlava, quando è stato 2 giorni fa, con Luciano. Parliamo sempre noi. Eravamo a pranzo insieme, il direttore del dipartimento, mia moglie che comunque fa neuroscienze. Qualche sera fa, piuttosto tardi, sulla rete locale c'era Veleni in Paradiso, che non so se l'avete visto. Era un programma dedicato alla quantità di pesticidi che vengono rilasciati in questa regione e nel Bolzanino, insomma. Pro mele e pro uva, ovviamente. Allora, la quantità è in media 4-5 volte più che nel resto dei territori agricoli a coltura intensiva del resto d'Italia. Va bene. La legge europea dice che tutta una serie di composti chimici, diserbanti e quell'altro, non mi ricordo mai come si chiamano, non devono essere rilasciati in ambiente più di una certa soglia, ok? Quindi ha posto un limite di quantità per ciascun singolo diserbante o pesticida. Qual è la fregatura? Che ora li mescano 40 insieme. E quindi se vanno a cercare il singolo, sono tutti sotto soglia, ma sono 40. Di nuovo, va bene. Qual è il motivo per cui dai sta bomba di diserbanti? E vada bene. Dopo questo servizio ovviamente uno va a giro e guarda. Ora probabilmente io non sono un esperto, quindi io amo la pesca, se si parla di pesca mi so di qualcosa, ma di altra roba no. Fatto sta che ora... Io sto a Tavernaro, non so se sapete dov'è la frazione, e la mattina godo come un pazzo a guardarmi tutte queste belle vigne. E godevo fino a qualche giorno fa. Ora, la mattina, ci sono trattori che sparano roba, non so cosa sia, tutte le mattine da tutte le parti. E quindi comincio a dire, sai che c'è, forse la colazione me la faccio dentro casa piuttosto che fuori. Va bene, l'altra cosa che ho visto e che sinceramente ho detto... La bimba va a un asilo, qua, una bimba di 2 anni. Abbiamo deciso l'asilo perché è meraviglioso, una struttura in legno fantastica con una quantità di spazio all'aperto impressionante. La mia bimba è un animale, tipo me, cioè sta fuori la mattina, cioè, dormirebbe in terrazzo se gliela facesse fare. Quindi a mia moglie, questo ambiente così aperto, cioè, e quindi siamo riusciti a ficcarla lì dentro. Commentate come le Pasqua, peccato che ora è pieno di vigne intorno. E ci sono questi trattori che dalla mattina che portiamo la bimba, non si sa ben quando, sparano sta roba tutto fuoco. Quella roba fa male. Non sappiamo, ci sono state poste delle leggi. La barra non è stata vietata, perché, ok, ma la barra è stata posta a un livello che forse... Però siamo esseri umani, ce ne freghiamo altamente e carichiamo 40 diserbanti tutti insieme. Ma qual è il punto che veramente è disumano? Altro che la sperimentazione animale, perché poi appunto uno contrasta con questa roba. Qual è il motivo per cui danno 40 diserbanti tutti i giorni alle mele? Io ho fatto questa domanda da ignorante, ho detto, ma c'è un po' di ragazzi anche qua, poi ad altre persone fuori. Qual è il problema? Che siamo in un ambiente talmente boschivo che c'è talmente tanti di quegli animali che se non dai sta tonnellata di diserbanti non raccatti una mela dagli alberi? Cioè ti va veramente a macello il raccolto? La risposta di loro e di altri più informati dei fatti ha detto no, è che la melinda deve essere perfetta. Cosa? E te mi spari una bomba di diserbanti a tutto fuoco in mezzo agli asili, perché se no io non ti compro la mela perché non è perfetta? Ma siamo a questi livelli. E quindi io qui è la prevenzione. Dio volesse, ma è tempo perso. Tempo perso perché ti dico, e te lo scrivo, il fumo ti sta ammazzando, sei incinta, non lo fare. Ma chi ha mai buttato via una sigaretta perché c'era scritta una cosa del genere? Chi è che va a comprare al supermercato una mela che casomai c'ha un buco di un baco così e il baco dentro che ti saluta? Chi la compra? Probabilmente pochi, se non nessuno. Ma anche solo un difetto? No. Capisci? Il problema è che il supermercato non la compra perché potrebbe avere problemi di conservazione. Perché il cliente non gli gusta. Oppure quindi capisci? E ti la spaccia come biologico, quindi qualcosa la paghi ancora di più. Beh, scusa. Il fumo è calato negli ultimi anni, ma perché è calato? Non perché hanno messo. Ecco, quindi a livello governativo c'è il modo di fare prevenzione e di. Alla fine devi imporre queste cose, se no non puoi lasciarle al libero arbitrio di ognuno. La prevenzione è importante, per cui va imposta proprio a livello centrale. Se il fumo fa male, lo Stato ci guadagna sulla vendita del fumo. Questo è un controsenso. Questo è veramente un controsenso. Questo ti dice che lo Stato non ha volontà di fare effettiva prevenzione. I motivi bisogna ancora capirli, però 2 più 2 fa 4, questo è il risultato. Come si fa lì anche sulla produzione delle mele, per quanto riguarda i livelli di pesticidi e così via, si possono cambiare, modificare i livelli, non è che sono stati imposti 40 anni fa e allora va bene, 40 anni fa manteniamo. Si è capito che fanno male, si è capito che ci sono modi tramite cui vengono aggirate le limitazioni, cambiamo le limitazioni, mettiamole, ammoderniamole e facciamo sì che si abbassi il problema. Però non viene fatto, qui per fare una legge devi aspettare 15 anni, in 15 anni sai quante cose cambiano? Yeah. Saranno diserbanti che adesso non ci sono e... Sì, attenzione però, perché uno dei problemi storici dell'Italia è che quando la legge viene fatta è talmente restrittiva che è sostanzialmente inapplicabile. Per cui tutti quanti chiudono un occhio, anche tutte e due, ma non sai se perché sta andando il 20% sopra o il 2000% sopra. Anche quando hanno fatto la legge sulla privacy, o quella sul, perché se togli conosco un pochino di più, o sulla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, dal punto di vista tecnico sono sostanzialmente inapplicabili. Ma quello che smai diventa appunto la volontà della serie, il politico te l'ho fatta la legge, hai visto? Poi diventa appunto, come dici te, va talmente fuori dalla grazia di chiunque che sì, buonanotte. Ma lui è tranquillo perché la legge come te l'aveva promesso te l'ha fatta passare facile, gli eventi non comportano. Però per esempio a conclusione di questo servizio, che io ero lì così, mi dico, ma com'è possibile questa cosa? Una conclusione positiva è che c'è, non mi chiedete dove perché me lo sono dimenticato, ma insomma una di queste regioni più sul Bolzani, se mi ricordo bene, ha deciso, la collettività, la comunità ha deciso di ridurre in modo drastico, sensibilmente, tutta questa fitofarmaci e pesticidi di qui a 5 anni, portandoli veramente a livelli miserevoli. Sapete cosa succede? Secondo me, perché poi per noi siamo fatti veramente torti, che questi, se partono veramente e stanno avanti 2 anni al resto della comunità, le mele le stravenderanno, perché allora a quel punto diventa un prodotto DOC sul serio, la gente lo comprerà perché potranno di... siete sicuri? E compreranno una piega testa e la gente comprerà le mele bacate perché cavolo, ci sta un baco, vuol dire che me la posso mangiare perché c'è vita. Fine... esatto. Questa è la conclusione, e mi mangio anche il baco, ecco. Perché chi di voi si beve il mescal? Nessuno, vorrei vedervi il baco del mescal, ve lo siete mangiato, però quello della mela lo volete, vorrei fare una battuta. Assolutamente. C'era, non mi ricordo dove l'ho sentito, un contadino che diceva: perché dovrei mangiare io una cosa che non vogliono neanche i vermi? No, dai, no, non ti posso, cioè, questo che ovviamente è assolutamente vero, cioè, ho detto, siamo, cioè, è il mercato che influenza le dinamiche di qualsiasi cosa, e il mercato siamo noi, cioè, quello che ti può convincere che mangiare la mela quadrata, cubica, è il top del top, ok? Se te sei un po', ti fai convincere e compri la mela cubica, ma alla fine, ripeto, il libero arbitrio, siamo una razza pensante, insomma, no? Uno dovrebbe arrivare lì e alla fine fa un attimo due conti. Però, di nuovo, quando è passato questo servizio, ma io non so se era mezzanotte e mezzo, cioè, a parte disperati come me, che erano lì al televisore così, chi l'ha visto? Hanno fatto vedere poi nel frammezzo un servizio di 3 o 4 anni prima, dove non ho idea, un politico della regione penso fosse, da Bruno Vespa, diceva: guardate che la condizione è questa, il livello l'Europa l'ha abbassato, ma stanno mescolando, stanno facendo minestroni. In trasmissione il primo Vespa se l'è mangiato. Ma che cavolo di giornalista è una persona che in una situazione del genere, invece di vediamo di capire, stai dicendo una cosa del genere? Hai le tue fonti? Sei sicuro di... sei sulla RAI, sei sicuro di una cosa del genere? Sì? Metodo scientifico. Dai. Approfondiamo. Poi, se hai detto delle cavolate come Grillo, ti metto in prima serata e dico: guardate, no, ho sentito Pinco, Pallino, ho fatto fare le analisi a sud, a nord, in Inghilterra, non vengono fuori questi dati, c'aveva delle fonti non attendibili. Oppure di, però quando esce il servizio a mezzanotte, chi lo vede? Nessuno. Però appunto, cioè, la divulgazione è fondamentale, la possibilità di parlare, di discutere di queste cose deve essere fondamentale, ma sta un po' anche dalla parte nostra in generale, poi scienziati o non scienziati non importa, cioè, sta un po' con le orecchie ritti, perché secondo me ci siamo un po', cioè, ci facciamo un po' troppo trasportare da quello che è appunto televisione, giornali, cioè abbiamo perso un po' di veramente di criticità in quello che ci troviamo davanti, e lasciamo perdere un po' tutto, siamo un po' alè. Secondo me questo è sbagliato, poi ovviamente fare attestate contro muri, insomma, non ha senso. Però riacquistare un po' di, appunto, come dicevo, criticità e di, aspetta un attimo, le mele, fammi andare nel supermercatino, quello mi costeranno un po' di più perché appunto il numero sarà un po' meno, saranno un po' brutte, ma almeno se la mela fantastica che luccica e non la compra più nessuno, poi casomai qualcuno si chiede perché, insomma. Quindi il mercato alla fine siamo noi, quindi ci possono provare a convincere, ma bisogna essere un po'. Io qui c'ho. Vai avanti con le tue, che conclusione serata, altro che il tempicione che risponde. No, anche perché ora non so dove porteranno quelle due. Che... No, ma... me le girate apposta. Tradizionale, eh? Bro. Allora, leggo testualmente. Un cardiochirurgo israeliano ha dichiarato in passato che i medici e i ricercatori studiano per curare i sintomi anziché cercare la causa di essi, togliendo il problema alla radice. Sosteneva inoltre che tale causa fosse da ricercare in malfunzionamenti nella parte di cervello che non utilizziamo razionalmente. C'è una ricerca che si muove in tal senso? Ci sono risultati? Allora, io direi a questo cardiochirurgo israeliano: si è avuto un infarto, secondo me ti aiuta. Il cervello conta poco, nel senso, se si ha un infarto devi curare i sintomi perché ancora non siamo in grado di rigenerare il cuore. In futuro questo sarà possibile. Quindi, ma soprattutto che la vita al cancro potrebbe essere causa sua, dal punto di vista emotivo, psicologico, eccetera, che sia malato, penso che sia malato. Ci sono delle malattie psicosomatiche in cui, diciamo, delle psicosi portano a sviluppare delle patologie connesse alla psicosi. Però ci sono alcune malattie, se uno ha una lesione spinale non la guarisce, anche con tutta la buona volontà e con tutto il funzionamento di tutte le parti del cervello, il circuito è interrotto e non lo porterà mai superare. Naturalmente è stato dimostrato che avere ottimismo, un umore, diciamo, buono, aiuta ad affrontare le cose, aiuta a superare i problemi, aiuta a superare anche le malattie quando sono superabili o a renderle meno brutte da affrontare. Tutto qua. Però alcune cose si curano, si riescono a curare i sintomi perché ancora non siamo in grado di curare a fondo il tutto. Faccio l'esempio del Parkinson. Parkinson, c'è una parte di cervello che degenera, si ha meno dopamina, che è un neurotrasmettitore che viene rilasciato in un'altra parte di cervello, e quindi il paziente ha questi problemi motori. Cosa si dà? Si dà la levodopa, che in pratica riduce i sintomi, riduce i problemi motori, però non è che rigenera i neuroni che sono morti. Quello adesso non si può fare, si sta studiando per farlo utilizzando le cellule staminali, cercando di aiutare la rigenerazione, però questo è un qualcosa che al momento non è possibile, lo sarà probabilmente nei prossimi anni, però quello che si può fare in tanti casi è solo cercare di ridurre i sintomi e migliorare questo per i pazienti, per tanti pazienti è fondamentale. Se uno può vivere 10 anni contro un anno, cioè, non so chi preferirebbe di vivere un anno piuttosto che 10. In questo contesto lo riporto veramente in modo asettico, nel senso che non pendo da nessuna parte, così l'ho letto e così lo riporto. In Harvard Medical School, quindi ci sono 4-5 ospedali importanti nella zona, con politiche diverse, amministrazioni diverse, quindi non è un filone unico amministrato tutto in certo modo, quindi abbastanza indipendenti. Hanno fatto uno studio seguendo pazienti che avevano uno specifico tipo di tumore, tutti del solito sesso, e hanno diviso fra persone che erano supportate durante il decorso da prete o religioso, supportate psicologicamente da qualcuno seriamente che non fosse la famiglia, e quelli che non sono stati invece supportati in questa direzione. Allora, a detta di questo studio, quelli non supportati psicologicamente hanno risposto meglio alle terapie degli altri. Allora, però qui si va un po' asettico, un po' per il momento filosofia, no? Però va in una direzione che potrebbe avere senso. Il concetto qual è? È che se qualcuno ti coccola, ti rilassi, ti ammosci. Se sei di fronte da solo al problema, probabilmente tiri più sulla testa, il che potrebbe voler dire impostare il proprio organismo a un combattimento più diretto, ok? Ormoni, non ormoni, di rimbalzo sistema immunitario, non sistema immunitario. Le terapie sono estremamente aggressive in genere, e quindi c'è una debilitazione del sistema generico. Molti dei pazienti muoiono per setticemie, perché il sistema è talmente logorato dai farmaci che le infezioni vanno alle stelle. Quindi dico, cioè, anche se al momento è più filosofia che qualcosa di scientifico, però ci potrebbe essere un'influenza che non ha niente a che vedere con le terapie, ma nel come affronti emotivamente, umoralmente la patologia, il decorso e tutto. E questo, insomma, è uno studio abbastanza interessante. Poi al momento è fermo lì, quindi non ci sono veramente motivi. Dicevo sul fatto che le cause del cancro siano di tipo psichico, cioè nel senso che ci sia stata trovata una correlazione, capisci che problema? Sì, ma c'è un terreno complicato da. Cioè, sta dicendo che non è possibile. No, pensavo che fosse dalla parte. No, assolutamente. Voglio dire, fuori di testa. Oltretutto, voglio dire, no? No, infatti, intanto si sentono queste cose. Ah, no, perché queste cose se ne sente parecchio, insomma. Perché anche cercato di essere. Il problema è che si sentono queste e non le altre, insomma. Però. Ora, a prescindere da un concetto molto più appunto, generico, ma se pensi al cervello come una fonte di stimoli e di molecole chimiche come acetilcolina, glutammato o altri fattori che vanno in loco, oppure sparati, colonna vertebrale, muscoli, terminazioni, quello fa parte più che del l'anima, chiamiamo, no? Del cervello, visto questa forma di. Ma come una macchinetta che spara, appunto, sostanze chimiche. Non puoi veramente, in modo rigoroso e scientifico, di impossibile. Puoi dire, aspetta un attimo, cioè, che evidenze hai per poter dire una cosa del genere? Ce l'hai, non ce l'hai? Però. Di nuovo, l'approccio, secondo me, giusto alla scienza è non dir mai più. Perché sennò si rischia appunto che il buon giapponese lì perda anni per convincere di qualcosa che effettivamente era vero. Quindi gli dici, ma per l'amor di Dio, no. Fammi vedere quali sono, almeno l'idea che hai e su cosa è basata la tua idea. Cioè anche semplicemente un'osservazione. Okay, senza che ci sia nessun approccio scientifico all'osservazione, ma se mi dici, oh guarda, c'è questa tribù sparsa, sta regione dove veramente sono 50 e questi si fumano marijuana tutto il giorno, ridono, sono contenti come le Pasqua, la mattina che si sveglia, la sera vanno a letto, nessuno ha un tumore, nemmeno a bucallo, allora aspetta un attimo, fammi un attimo vedere. Casomai la qualità dell'aria è un centro niente alla contentezza oppure la marijuana. Però ecco, dire subito no, quello potrebbe essere un approccio sbagliato, perché appunto, cioè, il sistema è veramente complesso e ne sappiamo veramente ancora poco, purtroppo. Il cervello influisce comunque sull'attività corporea e viceversa. Anche semplicemente l'apprendimento, se c'è una persona stressata, una persona non stressata, chi apprende meglio? No, adesso ho capito. Ok, ma io vado veloce. Allora, due domande molto interessanti e molto indicate. Una è quanto è difficile ottenere fondi per la ricerca? E l'altra, relativa, è come viene deciso quanti fondi attribuire alla ricerca? Allora, ti rispondo alla prima, quanto è difficile ottenere fondi per la ricerca? Mostruosamente difficile. Nel senso che sono veramente pochi al momento, sono negli ultimi anni stati, anche se comunque un'enormità rispetto all'Italia, ma estremamente ridotti anche negli Stati Uniti, perché insomma non se la sono passata bene negli Stati Uniti negli ultimi anni, ora stanno ripartendo, ma insomma, c'è stato un bel down. In Italia sono sempre meno. Quello che supporta sicuramente al momento è l'Europa. L'Europa ha dei fondi molto interessanti. Quello a cui ho applicato, per esempio, è un fondo ultra competitivo, che se ne guardi ricevessi questi soldi probabilmente mi sentirete cantare dalla contentezza, ma sono 2 milioni di euro per 5 anni, quindi è una cifra veramente consistente, insomma. Però è estremamente competitivo, è un grant a cui partecipa tutta Europa, sono campi di ogni tipo, discipline di qualsiasi genere. In Italia al momento, ora non so bene la situazione fondi in Italia, anche perché sono entrato da poco e appunto questo finanziamento che ho me lo sono portato dagli Stati Uniti. Che è inizialmente tragica, se calcoliamo che per un bando a cui è stato applicato circa a marzo del 2014, sì, abbiamo avuto un responso solamente adesso, circa meno di un mese fa, dove bene o male poi sostanzialmente il reclutamento previsto dal bando di concorso, e quindi c'erano anche gli estremi per poterlo annullare volendo, erano reclutamento entro il 1° gennaio di quest'anno. E tuttora stanno screenando le altre due fasi, tra l'altro il concorso non è ancora terminato, quindi insomma, tragica. Sì, siamo a livello della Grecia anche sotto, sì, a no, livello di finanziamenti alla ricerca in Italia, è questo. Sì, i finanziamenti che trovi che sono filantropici, uno è l'AIRC e l'altro è il Telethon. Questi sono... Dalle donazioni? Certo, filantropici, sì, è filantropia. Sì. Questi dovrebbero affiancarsi a programmi di ricerca nazionali, cioè, pluriennali. Dovrebbe essere un supporto in più rispetto... Invece si cerca di sostituire assolutamente quello che dovrebbe esserci tramite l'iniziativa filantropica. Però questa può essere di complemento, non può essere sostitutiva. Si vede che ogni tassa si è vista per questo, posso fare. Infatti, però il concetto è che al momento la situazione è ovviamente seria e complessa da tutti i punti di vista, quindi è chiaro che aspettarsi chissà quali finanziamenti in un momento in cui la coperta è veramente corta, penso che sia un po' un'utopia, insomma. Il concetto di fondo è sperare che chi è al governo e chi è all'opposizione, perché sempre di governo si parla, faccia quel che deve fare per riportare il nostro paese a livelli giusti, senza pensare ad andare chissà dove, ma nemmeno di rimanere in una situazione veramente imbarazzante come questa, e che il risanamento piano piano poi comporti un risanamento anche del contributo statale alla ricerca, perché un paese che non ha ricerca, che sia ricerca scientifica, ingegneria, qualsiasi tipo di ricerca, cioè non si va da nessuna parte, è fondamentale fare ricerca, non si scappa. Quindi al momento situazione tragica, cioè, dobbiamo da tirare la cinghia veramente in modo stretto. È un lavoro questo che si morde la coda, perché tirare la cinghia vuol dire avere pochissimi fondi per fare ricerca, vuol dire non riuscire a pubblicare lavori su riviste internazionali, vuol dire perdere il passo e non essere più competitivi, perché se passano troppi anni dove il tuo prodotto scientifico pubblicato, quindi oggettivo, è scarso, è in genere questo lavoro che ti accantona. E a quel punto non rientri praticamente più nel giro, quindi non è un lavoro che dice ok, vorrà dire che per 5 anni rallento un attimo i ritmi, ritiro un po' le fila e poi quando il sistema riparte riparto. No, se ti sei fermato, quando il sistema riparte te sei nel cestino. Quindi questa è la vera problematica, però al momento questo è. Di sicuro possiamo cercare di insistere, di creare gruppi più consistenti per cercare di prendere più soldi possibile dai finanziamenti europei. Posso porre una questione su questo punto? Scusate se sto ancora nel lato economico. Ho detto che la medicina, specialmente con i tumori, va verso la personalizzazione, verso guardare il paziente, certo, il paziente singolo, e funziona questa cosa. Dall'altra vedo i primi successi della gene therapy che sembrano correttere bene. Allora mi chiedo, sono convinto che troveremo la cura per qualsiasi cosa, ma poi possiamo permetterci, possiamo portare su larga scala qualcosa che una terapia che costa 1,5 milioni di euro a persona. Ha senso cercare una cosa del genere? Guarda, qui entra il gioco delle company, che dicevo prima. Lo sai quanto costa un clinical trial al momento a una company? Cioè dal momento in cui decide quale droga testare nel paziente al momento in cui finisce il trial e dice sì o no, ma sì o no lo dice il governo, non lo dice la company. Costa in media qualche bilione, non milione, bilione di dollari alla company. Ed è un investimento che parte appunto dalla ricerca, dalla sintesi, è veramente a lungo termine. Qual è il punto? Com'è che negli Stati Uniti l'FDA, qui c'è un'altra sigla, Food and Drug Administration negli Stati Uniti, qui è appunto una sigla invertita, ora non me la ricordo, ma insomma decide, ok, la droga va in clinica, no, cara amica, te la metti nel cestino, e su quanti pazienti in percentuale ha funzionato? E di nuovo la specca è alta, cioè la percentuale che fa sì che la droga, scusatemi, è il drug americano, non è farmaco, che passi veramente in clinica, ti dico, è vero, la percentuale è molto alta. Qual è il problema? Che il reclutamento dei pazienti, okay, per testare il farmaco è fondamentale, visto che sono, come vi dicevo all'inizio, in teoria farmaci intelligenti, cioè vanno a bersagliare una cosa precisa. Ah, lo sai cosa sta succedendo, che è verosimile? È che nel momento in cui reclutano pazienti non fanno analisi per capire se quel paziente, almeno potenzialmente da un punto di vista genetico e molecolare, ha le caratteristiche per poter rispondere positivamente alla droga o no. Quindi continuano a ruolare i pazienti in questi trial in modo genetico e molecolare blind. Questo vuol dire che arruolano pazienti che non hanno il target per il farmaco, cioè in cui il tumore va per vie che non hanno niente a che vedere con quelle che va a toccare il farmaco. Il risultato qual è? Che la percentuale di questi pazienti che rispondono positivamente è estremamente bassa. Qual è il gioco? Che questi sono bilioni di dollari che vengono cestinati, bruciati. Ma la droga, una volta che l'hai sintetizzato, sai la molecola, sai come funziona, non è che lo butti via proprio, te lo metti nel cassetto. Ora, questa idea di stratificare geneticamente pazienti prima di arruolarli in trattamenti, per dire te chi sei geneticamente, tumore quello alla prostata va bene, ma che tipo di tumore? Ah, vai nel gruppo 1 dove pazienti vengono trattati con i farmaci che dovrebbero andare a giocare su quei meccanismi lì. Questo fa sì che, da qui in avanti probabilmente, quel 10% di pazienti che al momento rispondono sul totale, che non fanno passare l'approval del governo, quel 10% diventeranno il 100% probabilmente, perché incominci a trattare col farmaco giusto i pazienti giusti. Questo vorrà dire, per le company, non trovare più un farmaco che fa bene al 70% dei pazienti, non sarà più questo il goal della company farmaceutica, bene? Perché non esiste un farmaco che possa far bene al 70% di pazienti, bene? Il goal della pharmaceutical company sarà prima trovo quali sono i pazienti giusti, almeno sulla carta, bene, per quello che si sa in scienza, e testo il farmaco su questi. Quindi non sarà lo scopo della company, non sarà trovare il farmaco, ma caratterizzare e mettere sul commercio 10 farmaci diversi, ciascuno dei quali tocca il 10% dei pazienti. Ed è per loro comunque una cosa 100 volte più vantaggiosa pizzicare il piccolo, la percentuale purché base dei pazienti, piuttosto che al momento bruciare milioni di dollari uno dietro l'altro perché a fine dei conti tocchi il 10% e non è sufficiente per far sì che quel farmaco vada in produzione, vada in clinica. Quindi è un rewiring del concetto di farmaco e di quello che era poi lo scopo della company. Guardate, una cosa che mi ha veramente fatto schizzare fuori gli occhi dalle orbite, ma che la dice lunga, è che negli Stati Uniti Google, il campus, ha aperto un centro di ricerca per fare stratification di pazienti e target therapy. Google è la via d'andà, anche se, come dicevi te, ma alla fine ci saranno veramente, cioè ci sarà, il gioco varrà la candela da un punto di vista proprio di economico. Io penso di sì, ma sicuramente ridurrà, il guadagno forse arriva semplicemente dal fatto che non bruci già tutti i soldi che al momento hanno veramente tirato nel cestino negli ultimi 5-6 anni. Il paziente oncologico da seguire sulle console. E l'altro aspetto è che non c'è modo di pensare di utilizzare un farmaco, il singolo farmaco non funziona. Sono sempre combinazioni di farmaci, perché è come andare su una barca che ha 1000 buchi, e ne tappi uno e l'acqua esce di là, poi tappi quell'altro e ti esce di sotto. Purtroppo, come vi ho detto, specialmente il tumore è un'esplosione di vita in questo senso, nel senso che te scopri che la tipologia di tumore lì sfrutta quella via lì per vivere, per proliferare, bagna la martelli, il tumore accusa il colpo, ma poi zitto zitto trova il modo di sfruttare una via che è completamente indipendente dalla prima e via, riparte. E te ti tocca andare lì e capì che via ha preso, la trovi, c'hai il farmaco, boom, spacchi la seconda via e il tumore drain, ma zitto zitto poi riparte e riparte trovando un'altra via. Cioè è una lotta veramente in questo modo. E un altro problema di queste resistenze acquisite ai farmaci, che le combatte semplicemente capendo qual è il meccanismo che sta sfruttando ora il tumore per ricrescere, le ottieni per esempio dai pazienti, se vuoi andare dai pazienti, facendo biopsie successive. L'hai fatta la prima volta per capire chi era il primo tumore che ti sei trovato di fronte, te clinico, lo tratti, risponde, dopo 6 mesi ricompare. Come fai a capire che via sta sfruttando? Cioè come questo tumore, in che modo meccanisticamente è ripartito? L'unico modo è riandare a bucare il paziente, ritira fuori il tessuto tumorale e rianalizzarlo. Di nuovo, non è eticamente accettato. Non lo puoi fare. E allora? E di nuovo si ritorna a un altro aspetto fondamentale dell'utilizzo di modelli murini, di topi. Perché lì ovviamente queste cose, dopo lo sacrifichi e studi perché effettivamente il tumore ha ripreso. L'MGH, Massachusetts General Hospital, che è l'ospedale più grosso degli Stati Uniti e si compete con il Memorial, la prima posizione ogni anno, lì un mostro di scienziato medico che è Engelmann per il tumore al polmone è stato il primo a ottenere un IRB, si chiamano, cioè un protocollo per la sperimentazione sui pazienti dall'ospedale e poi dal governo, che gli permettesse di fare questa cosa, cioè di fare un secondo round di biopsia al paziente che ne aveva già subito uno nel momento in cui il tumore non rispondeva più al farmaco. Ma è stato un successo festeggiato in mille modi, perché è fondamentale, capì? Quindi ti dico, cioè, anche lì, cioè, di problemi la ricerca ne incontra 100.000. Resta il fatto che si parla sempre di combinazioni di farmaci, che apre il via a comunque la combinazione di effort economici della company e a volte di company diverse, perché il farmaco 1 l'ha fatto la company X, il farmaco 2 ce l'ha la company Y. Quindi alla fine non penso che il problema finale sia il guadagno economico, cioè no, che sia il... Però un sistema in crisi non dà Vorrei aggiungere solo una cosa circa il costo dei trattamenti. Trapianto di midollo adesso si fa non dico di routine, ma quasi. 20 anni fa costava 70.000 euro fare un trapianto di midollo, adesso costa 10.000 euro. Quindi con l'estensione del trattamento si riducono anche i costi, col perfezionamento del trattamento si riducono i costi. Adesso con l'utilizzo anche del sangue cordonale nelle banche i costi si abbatteranno ancora ulteriormente, per cui all'inizio tutto costa, anche le macchine inizialmente non erano alla portata di tutti, costavano molto, però aumentando il bacino d'utenza e aumentando la disponibilità a più persone di un trattamento, questo abbassa i costi notevolmente nel tempo, per cui è una cosa da considerare. E, facendo un esempio delle malattie neurodegenerative, che in genere sono malattie che comportano un'ospedalizzazione di un paziente per anni, fai l'esempio di un malato di Parkinson, di Alzheimer, questo può stare anche 20 anni in cliniche che devono seguirlo, e tutto questo ha un costo. Quindi sviluppare dei farmaci che magari costano inizialmente, però che ti sgravano da un costo sociale di questo genere, è una cosa positiva dal punto di vista della farmacoeconomia. Quindi bisogna ragionare sempre sullo sviluppo di quello che stai facendo e a quanti può essere utile, e sviluppando una cosa quali altri costi elimini. Quindi è un, diciamo, un processo complesso, ma che richiede di tener conto di tante cose, però col tempo i farmaci diventano più accessibili a tutti e costano di meno. Io direi che possiamo concludere la serata. Ringrazio voi per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. È stato un piacere. Ringraziamo i gestori del locale per averci dato l'opportunità della sala e la disponibilità che avete sempre avuto. E ringrazio anche il pubblico che è stato presente e attivo, non ce l'aspettavamo. E vi invito anche all'evento del 19 maggio presso il Muse, sempre organizzato da Italia per la Scienza, e speriamo nel prossimo anno di coinvolgervi ancora. Grazie.